Ok, vai, siamo in diretta mentre Giulio ci tira per salire di livello. Tu mi te prendi a stress 2 e non prende neanche la metà. No, No, non ci... aspetta. Allora, i nostri amici Comunque non ho mai giocatori tirato sto stanno qua, salendo eh. di livello. Ti vedi i punti di Ma vita che cosa stiamo Io sono giocando? peggio di te. Di solito non metto neanche la costruzione, mi scordo. Ah no, ma non siamo in diretta su 5 più 2 è Facebook. 7. No. Non lo so, siamo in diretta. Non credo. Non so fare niente. Ora forse sì, ci andiamo. Vediamo, Ma schifo sta cosa. Ah, ma l'ho sbagliato. ancora 9. Ora sì. È strano. Ora Va sì. bene, dai, grandi. Benvenuti. Questo è il sedicesimo Grazie. episodio di Coloni. E trasmettiamo dalla nevosa Bologna. E con me, Andrea Giacomo Vecchi, abbiamo Giulio Bosi, Stefano Gamberoni, ancora. Per la seconda E volta ancora, e consecutiva. ancora. Luca Azzarini. Invece in collegamento abbiamo, sempre da Bologna, pigro e orso della sua tana, Enrico Cattabriga, e anche da Marsiglia invece, al caldo, Pigro, perché non è voluto venire Edoardo prima. Saladini, pigrissimo Edoardo Saladini. E la Mi scorsa segnerò sessione di più. noi giocheremo ovviamente, come sempre, alla versione 5.0 di Dungeons & Dragons oggi, e siamo al gran completo, quindi incredibile. È Sarà, vero. sì, riusciremo a fare quello che volevo Cioè, farvi ci sono fare nelle anch'io. ultime tre sessioni, ma eravate sempre in tre, non riusciamo a fare. Che poi in realtà non è neanche una cosa particolarmente importante, però insomma la faremo. Che livello inutile, Niente senti. spoiler. Beh, un paio dei nostri effettivi sono già saliti al rispettivamente settimo e sesto livello, come promesso, gli altri saliranno a breve, ma nel Chi è al frattempo. sesto livello? Sure. No, Non abbiamo che ricordato questa decisione. sega. Ha anche detto che le ultime 5 c'era 4 volte. Io ho spiegato che in realtà no, semplicemente le ultime 3 c'è Secondo stato 2 volte. me, vabbè. Va bene, senza ulteriori indugi, mandiamo la sigla. Allora, Accettabile. vediamo. Sì, lo volevo fare durare 26 ore la nostra sigla. Ok, qui abbiamo l'ops, qui abbiamo tutto. Allora, facciamo prima la questione amministrativa. Voi avete tirato i dadi. Salla, mi tiri il dado? Ah, stavo a sentire adesso. Ah, giusto, aspetta. Ora Vabbè, tirami. dimmi tu. Vabbè, mi fido anche come vuoi, se riesci a farmelo vedere, fammelo vedere, se no no. Ha fatto Intanto, 11 con un vabbè, dado tanto Katta non me lo può far vedere, dimmelo pure. d'otto. Ha fatto 11 con un dado d'otto. Basta chiedere, Quella c'ha trollette, Katta, con quella. Cos'hai addosso, Katta, scusa? Non È lo so, ti devo un mostrare. accappatoio? Intanto vi ricordo che noi stiamo Tycoons and Dragons e Ma lui ha un hanno accappatoio, non lo detto del fatto che Katta ha un accappatoio e sta esplodendo tutto. Sì, Ho potete fatto seguire. sei. 6, e va bene, è la metà, no? Perfetto. Metà più uno. E ci potete seguire ovviamente su Facebook, se non lo state già facendo, sulla pagina Facebook, Tycoons and Dragons, a volte anche su quella di RGDR, l'ultima mi sono scordato, Salla se riesci, magari postaci quando hai tempo. Ci sono tutti quei fan che hanno proprio che abbiamo perso. Ho dato una green card, ho detto Sala se riesci cosa? Spostaci, ha detto. Spostaci sulla pagina di RipGDR, por favore. Ah, e ci potete seguire anche sul blog di ripgdr.wordpress.com che prima o poi forse aggiornerò. E no, ovviamente no, anche sul podcast di ripgdr, questo lo sapete bene. Ovviamente potete anche aggiornare. Quello bisogna aggiornare. Cosa sta facendo con l'altro? Non si vede. Ora ci vuole tirare un dado che non sappiamo cos'è. Non si vede, è troppo azzurro. È un 8. Vabbè, ci vediamo. Un D4. Un D4. Ma segnati quello che devi segnare. Allora, la scorsa sessione è stata una sessione un po' particolare. Tiro un D12. Sì. Uno dei giocatori è stato costretto a giocare contro la sua volontà. Cosa? Sì, più o meno. Cioè, vabbè, un po' come se come giocatore. Cioè, solo quando ci sono le cose che non sono videogioco, l'AS va un po' in difficoltà. Allora, beh, in realtà in alcuni videogiochi ci sono queste parti. Non si gioca quel videogioco. Ok, hai ragione. Hai ragione, hai ragione. Va bene. Chiederei a Sceo e Giulio, che sono stati un po' più partecipi, quando hanno finito di guardare... No, sta facendo gli incantesimi. Ah, bene, allora Sceo, inizia tu, fai allora un riassunto. Premetto che... E i due Regits, però, so che state facendo la scheda, però vi pregherei un minimo d'attenzione. So che anche che state giocando a Metin, però... Entrambi, oltretutto. Io non sto giocando a Metin, perché la scheda l'ho fatta. Allora, per favore, so che non te ne frega un cazzo, però... No, non è vero, non sto giocando a Metin perché internet fa schifo. No, non è vero che non è vero. Ma internet fa schifo per noi e non per Metin, sarebbe stato... No, vabbè, intanto, premessa, a causa delle assenze di alcuni giocatori è venuta una delle sessioni più belle da parte del Master. Grazie, bravo. Nel senso che Betz dipende, però a Salla non sarebbe piaciuta. Nel senso che secondo me, per alcuni, soprattutto di noi che hanno vissuto un'altra campagna con lui, è venuta fuori una delle sessioni più belle. Senti che lecchino, solo per farci recuperare quel livello. Bravo, Sceo, sali a dotto. No, è la verità, va detto. Cosa? Non è vero. Soprattutto perché è improvvisato. mi aiuti con lì? Ah sì, l'inizio in realtà è, cioè, non sai anche fare una parte loro, però la posso descrivere io. Allora, se l'inizio tu non ci saresti, sì. Però la posso descrivere io, faccio in terza persona se vuoi. No, vai, vabbè. Parlala a loro, guarda loro, verso il microfono. Che no, sei. Sceso che è sempre di spalle. E anch'io devo parlare più forte, che l'ultimo non si sentiva. Allora, Quake, ti ricordi che avevi evocato un secondo mastino? Sì, cioè il secondo è sempre lui in realtà, che sì, torna. Vabbè, l'hai rievocato. Esatto, rievocato, ora è super disturbato. Ecco, ha fatto delle cose stranissime, tipo bambina dell'esorcista. Minchia. Ok. Cioè, al posto di vomitare sbavava, ma più o meno uguale. Ok. E poi è corso verso la foresta. Gli si è girata la testa di 180 gradi. Noi l'abbiamo seguito e siamo arrivati a questa sorta di grotta. Cioè verso dentro terra, verso la foresta. Ecco, detto nella foresta, corso pure il cane. Cazzo, neanche prego, ascolti. Prego. Non ho sentito. E a questa entrata è cieco. Cazzo, tornerà. Vedete che il personaggio dice grandi verità. abbiamo raggiunto questo ingresso di questa grotta che andava sottoterra. E all'ingresso c'erano pezzi di guardie cittadine smembrate o altra gente smembrata. Almeno due erano guardie cittadine che Eric aveva visto il giorno prima, la sera prima. Non è colpa mia. Chi lo può dire? Chi si può mai fidare di questo lato? A quel punto il cane si è fiondato disturbatissimo dentro a sta grotta. Tu Quake l'hai seguito come un invasato. Quindi ero disturbato anch'io. No, io ti ho interpretato come avessi fatto. Ah, quindi ero disturbato anch'io. Il tuo cane è entrato e tu eri sicuro e hai detto seguitemi presto. Esatto, seguitemi i miei brodi. Io mi sono fermato invece ad analizzare i cadaveri un po', però. Ma poi sono andati con loro. No, non l'ho fatto, mi sono trattenuto stavolta. Quindi poi siamo, ti abbiamo seguito, dopo un po' c'era una luce rossastra in fondo a sto cazzo di tunnel, c'era tipo una sala, una stanza, mm-hmm. E quando siamo entrati in questa stanza tu avevi in mano la pietra che mm-hmm. brillava e c'era Sirron che ti urlava di dargliela. Ma posso chiedere una cosa al master su questo attimo? Potrei risentire il me che chiede la pietra. Ah, perché vuoi la voce? No, no, no, volevo. Cioè. La pietra! Ho fatto in quel modo. Vabbè, all'atto pratico tu parli con la tua voce, quasi così. E noi lo facciamo così ma, per flavor. È una mia domanda. Loro intuiscono che c'è qua un cambiamento in me quando succede. al di là dell'atteggiamento, ma proprio allora, fisicamente. Il discorso è questo. Allora, l'unico che sapeva. L'altro no, ma faccio passi indietro, al di là di, al di là sì, è vero. Era, no, era. Ma in generale questa è una cosa generale, cioè se io sto parlando con te e mi succede tu allora, capisci che c'è un cambiamento okay, o non se ne se... No, per sapere se la gente può rendersi conto che c'è dipende, qualcosa che succede. Dipende, okay. In alcuni casi è palese, okay. Ovviamente. Cioè, al di là da quello che faccio, proprio fisicamente dalla voce se si capisce allora, che c'è qualcosa fisicamente... che cambia. Fisicamente no. Cambia il tuo modo di porti. Cioè, quello persona. Voglio dire, sì che si intuisce da dipende, fuori. Dipende da se quello che ti possiede vuole farlo vedere. O tenta di nasconderlo. Cioè se tenta di nasconderlo meno e se riesce a nasconderlo. Ok. Che poi non è necessariamente okay, la sua cosa migliore. Era pura curiosità. Ok. Poi ritorniamo alla scena. C'è... Diciamo che per chi te l'ha visto buon fare buon. Lo può riconoscere, ovviamente. Okay. Però dipende da ci sono fare. Io, ci sono in teoria di fronte sì. A Katta... Quanto che tra... gli dico dammi la pietra, dammi la pietra. Esatto. Cioè si erano di fronte a Katta che dice dammi la pietra, dammi la comunque... Tu da pietra, non pietra. Pietra di e pietra. La pietra che tu tieni in mano che brilla. Di una luce rossastra. Dietro a Sirron c'è una figura incappucciata che potrebbe essere forse quello che ha dato il sacchetto con i soldi a quello che abbiamo ucciso, che Filippo ha ucciso. Però non abbiamo avuto tempo di indagare. E il mastino stava abbaiando contro di lui. Sì, il mastino stava abbaiando contro di lui. Lui ha fatto un gesto con la mano e il mastino si è sciolto. Sciolto. Sciolto. Proprio, letteralmente. E, letteralmente. Mentre si non racchiude... si è sciolto nel senso... Tipo, oh, è diventato carino. No, si è proprio sciolto. Mentre Sirron ti urlava addosso e la pietra che avevi in mano si illuminava, ha iniziato a illuminarsi anche lo scrigno che tengo io. Cioè, lo scrigno di Sirron che ormai è requisito da parecchio tempo da me. Non è requisito, attenzione. Sì, è requisito. È in prestito. Nei fatti è requisito. È nascosto. Va bene. Ha iniziato a brillare anche quello e a farmi male, quindi l'ho dovuto estrarre dalla sottoveste. Perché bruciava. E in pratica c'è stata un'esplosione di luce e ci siamo ritrovati in una notte fredda e nevosa. Si sono risvegliati loro due e guardandosi attorno sono resi conto di essere esatto di notte in queste montagne ricoperte di neve, nevicava anche e non c'era niente e nessuno nei dintorni, ma poi sono stati attirati da un rumore, da una voce, come se ci fosse stato qualcuno sepolto, una creatura sepolta poco distante, sepolta nella neve. Sono andati a vedere, hanno scavato un po' e c'ero io, completamente nudo, sepolto nella neve. C'è ipotermia, quindi? In realtà sì, sentivo freddo, ma non così tanto da stare così male, ecco. Dopo varie... Come? Lo spettacolo è aprile. Sì, abbastanza, l'ho pensato anch'io. Infatti, proprio lì ho tentato. Esatto. No, io lì ho proprio tentato di chiedere amorevolmente ai miei amici di darmi qualcosa con cui coprirmi. E l'unica cosa che sono riuscito a fare è rubare strattonandola via la sciarpa a Giulio. Perché amichevolmente nessuno mi ha dato niente con cui coprirmi. Io ti ho detto: aspetta, che guardo nel mio Priaspax ci sono dei vestiti. Tu no, no. Vabbè. Tolto questo. Comunque, quindi vi dovete immaginare loro due. Dopo ho scoperto che c'erano, è quel cazzo che ti davo. Dovete... rubato la sciarpa. Vi dovete immaginare quindi loro due normalmente vestiti equipaggiati, più me nudo con il ventre coperto sì, da una sciarpa. Con la sciarpa messa, però. La cosa più inquietante deve ancora arrivare, fidati. Va bene, andiamo un po' avanti. E questo è solo. Andiamo avanti nel tempo. Veniamo, la nostra attenzione viene attirata dal fatto che oltre un crinale vediamo dal basso. Come salire una sorta di luce rossastra che potrebbe vagamente ricordare quella da loro appena vista rilasciare dalla pietra, no? Va detto che fare tutte le visioni potrebbe essere lunga. Sì, esatto. Vabbè, questa la dico bene, vai. Alcune le riassumo. Vai, vai. Okay. Vai per tutti. Ci avviciniamo, ci esponiamo in modo da vedere la scena e cosa vediamo? In basso, più in basso, qualche metro più in basso rispetto a noi, c'è una figura incappucciata, tipo con le mani verso l'alto, davanti a un fuoco e accanto al fuoco una sorta di pacchettino che da lontano non si capisce bene cos'è. Attorno al fuoco un bel po' di ombre. Attorno al fuoco e attorno a questa figura ci sono queste fiamme e queste ombre insieme che fluttuano attorno a lui e attorno a tutto. Ok. Alcuni di noi notano che questa figura incappucciata ha in mano lo scrigno che è legato a me, Giulio, il solito scrigno. Io noto che... No, in realtà il mio personaggio non c'entra un cazzo. Vabbè, nel senso che ce l'avevi tu in quel senso. Io noto che di fianco al fuoco, quel pacchettino, è in realtà un neonato. Un fagottino con un neonato dentro. Allora, aggiungo una cosa importante. Mentre vedo questa scena io sto molto male. Cioè, mi mette letteralmente a disagio, comincio a sudare. Non ho né il... l'istinto di scappare nell'istinto di intervenire, ma vorrei come seppellirmi e sparire, cioè mi crea un grande disagio. Allora con spintono gli altri per provare a convincerli a intervenire, tentano di intervenire per fermare questa specie di rituale che sta avvenendo, E cosa succede? Io che non volevo intervenire, però lui se ne ha fatto. Allora, cosa succede? Che le ombre ci attaccano. Una decina di ombre ci circonda e tenta di attaccarci. Loro cominciano a combattere con le ombre. Io invece ho l'istinto di andare verso il bambino per proteggerlo. Prendo in braccio questo fagotto col neonato e questo neonato ha la mia stessa identica faccia. Cioè la mia faccia di adesso da adulto. Le cose raccapriccianti diventano sempre più raccapriccianti. Quindi vedete me nudo con una sciarpa, con in braccio un neonato che ha la mia stessa faccia. Ma una domanda che tu non hai fatto sicuramente. Sì? Ma il neonato è tipo mucus, cioè dal corpicino e la testola da scemo. Non l'ho chiesto, hai ragione. Cioè, quando lui lo vede, in realtà la testa ce l'ha da bambino, ma è la sua faccia. E poi piano piano si ingrandisce. Esatto, a questo punto, mentre ce l'ho in braccio, si ingrandisce sempre di più, fino a che lo devo lasciare cadere per terra perché è troppo grande, e si trasforma in un enorme mostro. Di carne. Sì, una sorta di ammasso di carne enorme, mostruosa, che mi attacca. E ci attacca. A quel punto Giulio nota che da un lato, in mezzo degli alberi. Taglia. Usiamo i nostri nomi. Sì. Hai ragione. Scusami. Arian, da un lato nota lontano in mezzo degli alberi una porta e ha l'istinto di dire quella è la via di fuga. Corriamo verso la porta, una porta nel nulla, Non c'è un muro, niente, solo la porta. La oltrepassiamo e riusciamo a scappare da tutto questo. Ok, vado avanti. Facciamo. Allora, questa è riassumile, questa era figo dirla bene. Sì, nel senso che ci sono una serie di visioni che in realtà loro non hanno visto, però ci sta che voi le raccontiate magari anche dopo. Quella dopo siamo in un porto. C'è cioè un halfling bambino che ammazza un suo coetaneo che lo bullizzava. Questo è stato stalking. Questa è stata diffamazione, scusa. Infatti non ho capito perché lo stalking era il tuo verso l'altro bambino. Questa è stata diffamazione. Che ammazza il bambino che lo stava bullizzando insieme all'altro al suo gruppetto e butta il cadavere in mare. Noi ci avviciniamo al cadavere, il cadavere si rianima e veniamo aggrediti da 2 milioni di bambini zombie che escono dappertutto dagli altri palazzi, dalle finestre. Alla fine scappiamo su una nave dove c'è una botola. Hai dimenticato un dettaglio importante. Sir si è vestito da donna. Io trovo dei Sirron ha preso dei vestiti che ha trovato. Gli unici erano da donna, si è messo dei vestiti da donna. Quindi ho un abito da donna con me. Questa è la parte inquietante. Esatto. Saliamo su una barca dove c'è una botola, entriamo nella botola e finiamo in un'altra visione, che è quella del nano. Allora, se l'ordine aiutaci, perché allora, però credo di sì. La terza, siete in una grotta. Esatto. Sì, siamo in una grotta e veniamo attaccati da un Drider. Gli elfi ragno. È un ex miniera, sì. Sembrerebbe. Cerchiamo di affrontarlo, ci sta facendo il culo, ci divincoliamo e incontriamo il culo. Sì, stavamo parecchio facendo il culo. Si stava morendo, sì. E, ci divincoliamo e questo sembra per colpa dei Vescafi e critici. In tutto questo non ci sono né Philip né dei Quaker in realtà. Incontriamo questo nano cioè che è un Duergar sostanzialmente, un nano. Nano grigio. Sì, anche se vuoi per voi è un dado normale, alto pratico. Semplicemente bianco. Sì. E sentiamo delle voci che si stanno avvicinando. Però di cosa dice te? C'è una voce che dice a Nolian, vai avanti tu. Vai a vedere, tipo. E noi c'è un'altra porta. Qualche avverbio. Sì, qualche avverbio. Qualche avverbio che finisce in mente. C'è un'altra porta, noi la passiamo. Quarta, siete nel monastero. In realtà va detto che il master ha interpretato molto bene tutte queste voci. Orsù, andiamo. Dunque, la passiamo e siamo in un monastero, che è il monastero dei monaci di Sirron. Esatto, che io riconosco essere... Sirron è un ragazzo, sta venendo punito dal suo maestro. Cioè, aspetta, oltre a essere lì, c'è un altro me piccolo che vediamo, proprio. Cioè, noi vediamo la visione. Sirron sta venendo punito dal suo maestro e... Boh, a quanto pare sembra che gli cresca la rabbia e cresce la rabbia anche a lui nel contempo. A un certo punto perde le cose e questo Sirron ragazzo... La rabbia è la malattia, però. Esatto, questo Sirron ragazzo diventa gigante, sfonda il tetto del monastero. La malattia è del master. Schiaccia il suo maestro, noi guardiamo un po' la scena e ce ne andiamo da un'altra porta. Dopo questa c'è il torneo. No, c'è la torre del boss. C'è la torre, quella dei... Siete su... Quanto cazzo è durata sta sessione? È 4 ore, 4 ore e mezza. 4 ore e mezza. Sono tipo andato... Sai che tipo sta sessione qua? Ancora lì. Esatto. Sai che sta sessione qua sarà riassunto, poi io me ne vado. Fate adesso la finiamo. No, è quasi finito. C'è una torre nel bosco. Sì, vabbè, con uno specchio. Infatti io dicevo... Quando noi guardiamo nello specchio vediamo più o meno... quello che vorremmo vedere, in pratica i nostri alter ego nello specchio ci dicono di attraversarlo, noi lo attraversiamo. C'è uno strano simbolo sulla torre. Sì. Quello dei Rakshasha, la torre dei Rakshasha, Kata, se ti ricordi. Sì. Entriamo nello specchio e usciamo da una torre diversa su una spiaggia gelata, dove ci sono delle navi con la bandiera pirata che attraccano. Il capo ha un'armatura scintillante bianca, e iniziano a inseguirci, sono dei pirati scheletri. Arriviamo a delle rocce, tipo... Sì, delle rocce bellissime. Ah, sì. E poi lì l'Albatros però vi richiama. Compare sto cazzo di Albatros che ci segnala che c'è una porta e prendiamo quest'altra porta. Sì, tipo in un veliero in mezzo alle montagne. Esatto. E finiamo in mezzo alla folla, in un'arena sostanzialmente, dove c'è un torneo. Da una parte c'è un torneo di tiro con l'arco, in cui c'è un elfo bravissimo che sta vincendo. C'è un elfo bravissimo che sta vincendo. Da un'altra parte c'è una mischia dove c'è questo umano molto grosso, che in verità era un mezzogre camuffato, però vabbè. Fai a saperlo. Che picchia. E questa è retroscena per Katta. Che picchia gente. Noi notiamo questa figura con una veste semplice, diciamo in disparte. Sugli spalti. Sì, sugli spalti, vicino a noi. Io la vedo. E lui se ne va, questa figura se ne va. La inseguiamo e in pratica era il mio vecchio personaggio di quella campagna, no? Mm-hmm. Che dice, finalmente sarò libero, batte le mani, distrugge tutto. Sì, fa vedere che ha la pietra, distrugge tutto battendo le mani. In teoria prima avevi recuperato la pietra. Salla se n'è andata. Ha foldato. Ed era troppo per lui. Che... Sì, hai ragione. Batte le mani, distrugge tutto, poi si innalza sta porta dal nulla. Comunque in realtà prima c'era un'altra scena, ed era la tua scena. No, è dopo. No, prima. Vabbè, dai, taglia. Cioè, aspetta... Prima c'è la scena del castello dove Giulio... Ah, è bellissima! È il castello tra le nuvole dove Giulio è super potente, può fare qualunque cosa. C'è una scena in questo castello gigantesco... A Giulio viene ridato il suo vecchio personaggio, in pratica. Giulio è super potente, c'è un banchetto incredibile, però a un certo punto questo castello distrugge. È un castello nel cielo, cioè vola tra le nuvole. È delle nuvole, non vola. Nuvole. Ma l'ha sentito questo? È infatti vola. Mi sono divertito tantissimo. Vabbè, è sospeso. Infatti è segno, vabbè. Vabbè, poi il castello crolla, e noi finiamo in un'altra. Era andato via. Sì, finisce su una scogliera dove c'è un sacco di gente che si inginocchia davanti a Giulio, ma poi si alza e se ne va. È vero? Ah, okay. E qui poi c'è il torneo, poi c'è il torneo, e poi c'è la nona scena, e questa invece è importante per... Okay. E dopo il torneo c'è quest'altra scena dove c'è questa torre sempre. No, no, no, questa è importante perché c'è Quaker. Non è l'ultima, ah, no, l'ho segnato. Vabbè, l'ho segnato un po' a cazzo. Della nona... Ah, ok, nella, no, nella penultima, siamo alla penultima. C'è Quake. Sì. Che sta venendo frustato. Come me lo dico. Oh. E poi no, buttato in acqua, legato a qualcosa. L'hanno legato a una zattera, sì. E lasciato andare alle onde. Siron va per recuperarlo. Io corro da te per aiutarti. Loro invece. Ma io dico: no, facciamoci i cazzi nostri. Non sono mai ascoltato. Vabbè, allora, erano tutte visioni. Esatto, cioè. Intuiva per quello. No, no, l'avrei fatto anche in realtà. Vabbè, in pratica dal. Questi uomini si trasformano in uomini pesce, iniziamo uno scontro, compare l'albatros, c'è un bagliore lì dal palo dove eri legato, io ci vado e recupero la pietra, che nel frattempo era scomparsa. Nessuno mi sta cagando. Poi vabbè, io stavo cercando di capire qualcosa, l'ha dato su. A un certo punto l'albatros inizia a girare intorno in mezzo, diciamo, tra la riva e dove tu stai andando, Quake che è stato recuperato. Fa un vortice, mm-hmm. Veniamo presi a questo vortice e finiamo. Finiamo in quest'altra torre. Vicino a quest'altra torre. E questa la potete guardare perché l'ultima è staccata. È la seconda diretta di Facebook. Questa guardatela, cazzo, è bella. Che non adesso, nel senso. Dove, vabbè, in pratica c'è uno scontro. Saliamo alla torre, vediamo sto tizio che con i capelli lunghi che ci guarda. E che tiene uno scrigno, no? C'è lo scrigno comunque lì. C'è lo lì. Scrigno per terra, è successo lo scontro. C'è lo scrigno per terra, ci sono dei morti per terra. In realtà ci sarebbe, se vuoi spiegargliela per carta, perché c'è qualche dettaglio nei discorsi che sentiamo. Cioè, se vuoi solo telegrammare. Sì, vabbè, adesso tagliamo, poi guardatela. Però ti consiglio di guardarla. C'è stato uno scontro di questa compagnia contro un nemico. E poi è successo qualcos'altro. E fatto sta che alla fine la torre è mezza distrutta. Ci sono questo elfo sanguinante ma ancora vivo e quest'altro uomo che sembra un mago dai capelli lunghi, steso su un altro. Digli come parla così. Con una voce suadente e condizione perfetta e sta, diciamo, cercando di aiutare un altro uomo che sembra morto. E poi c'è un mezzogre enorme morto e delle tuniche sparse. C'è uno scrigno per terra, c'è una pietra. Ti saresti potuto vestire. C'è una pietra nera su un piedistallo che fa un fumo. Fa fumo, questo fumo va in basso e arriva giù da tutta la torre praticamente. E okay. Poi questo mago si rivolge a voi, vi guarda con gli occhi lucidi e vi dice: ecco, avete visto infine anche voi oggettivamente la fine della compagnia. Ora andate. E lì, lì ci siete tutti tranne Philip, Quaker, però tu sei svenuto. E ora direi che riportiamo perché siamo persi da qua. Quaker, quanti punti ferita hai? Se sono salito di livello, 65. Ok. Tu, no. Philip? Ne ho persi, no? No, tutti, a full vita. 73. 73? Sì. Perché non attacchi mai lui? Che non ci sono mai. Allora facciamo un passo indietro e lo facciamo con Philip. Philip, dai. Tu hai visto questi? Non posso. Rimettiti subito a sedere, testa di cazzo. No, aspetta, questo è importante. Nella scorsa sessione, in 4 ore e passa, Lasa ha fatto una singola battuta. Non mi hanno fatto mai parlare. È vero che ha fatto una sola battuta, ma e neanche esageratamente. Ma c'è stata anche la scena sulla tua infanzia. Era solo diffamazione. Era così abbattuto. Cioè, che tu pensa, Vest non sa neanche che personaggio ho. Non sai tu che personaggio hai. Nessuno sa che personaggio hai. Perché tu non stai giocando un personaggio. Esatto. Cioè, ho cercato di dare una profondità che il tuo personaggio non ha, semplicemente. Non è vero niente. Beh, è un invito. Vabbè, insomma, hai cercato di giustificare Lase in un'avventura in cui Lase non c'era. No, ho cercato di dargli un pizzico e di... No, in realtà Laz... Non mi conosce. Laz non gli è piaciuta, però ho recuperato il senso di Laz, della presenza di Laz nell'ultima scena. Come solo... Ha lanciato un salvagente. Come solo, come solo, come solo i grandi autori sanno fare. In realtà in mezzo a quelle visioni c'erano anche visioni relative a un... al background, comunque possiamo dire di ognuno sì, di noi. Peccato che era sbagliato. Quindi... Probabilmente non era sbagliato, di... probabilmente creato. Anche quello di Giulio. Dai, dai, Giulio nel come vuoto dico. Totale era creato semplicemente. Per me quello di Giulio. Vabbè, probabilmente neanche lo sceo ragazzo è diventato un gigante e ha schiacciato la gente. Sfondando il tempo. Cosa questo sai, questo non lo puoi sapere. Magari scopri che ho anche la coda e sono comunque, Goku. Che okay, ne sai? Torniamo a lì. Allora. Philip, tu hai visto prima Quakert che entrava seguendo il bastino. Tu non eri molto dell'idea di andare in un buco sottoterra. Nessuno di noi. Poi hai visto questa luce strana, un po' rossastra, hai visto gli altri che entravano e hai detto, ragazzi, vi copro le spalle. Solo che... Ma non sentiamo freddo. E poi sono stato lì fuori. Ti è venuto una gran scaga di entrare e sei rimasto fuori a pensare che cazzo fare e combattere con te stesso. Poi a un certo punto... Dopo tipo vari minuti hai preso coraggio e sei andato dentro piano piano. Quando sei entrato, sei arrivato lì, praticamente hai visto una scena un po' particolare. Hai visto una specie di cappa rossastra, cappa rossastra, cioè trasparente ma rossastra. Al centro c'era questa stanzetta diciamo sotterranea con delle fiaccole illuminata, ma illuminata soprattutto dal colore rossastro della pietra che ha catta, la pietra dell'Albatros. È una stanza piccola, c'è cioè una specie di tavolo di pietra al centro di questa stanza che è incavata nella roccia. Tu vedi praticamente una sorta di cappa, dicevo, rossastra, trasparente. All'interno di questa cappa praticamente hai visto... Katta e Ray, quello che pensi che si chiami Ray, cioè Sheo, che si erano tipo attaccati alla pietra. Praticamente questo scrigno che fluttuava in alto sopra di loro, e attorno a loro c'erano Eric e Arian, che tipo erano tipo... Sembravano completamente fuori di testa e facevano tipo delle facce strane, sbavavano. Sono diventato il cane. Dall'altra parte di questa cappa, hai visto una figura incappucciata che era da questa scalinata di pietra che stava osservando. E quando ti ha visto, praticamente è andata via. È andata via per il cunicolo che prosegue. E poi, dopo pochissimo, c'è stata una specie di esplosione, però senza rumore, di luce praticamente, che ti ha accecato. E poi però, quando ti sei ripreso, hai visto praticamente a terra i quattro compagni che si stanno risvegliando. Ok. Cosa? No, questo è ok. Invece per quanto riguarda te, Quake, sì. Tu sei entrato, hai visto che c'era Sirron, o meglio Ray, pensi anche tu che si chiami Ray, che ti chiedeva la pietra, ma con un'aria veramente autoritaria, per cui tu hai avuto l'istinto di prendere fuori la pietra. Poi hai detto, ma... Scusa, perché vuoi la pietra? Solo che ormai lui ti era addosso e avete combattuto per la pietra. Ok. E dopodiché c'è stata questa specie di esplosione di luce, al che tu hai un ricordo confuso di un ricordo molto antico e brutto per te, di quando praticamente la tua ciurma si era ammutinata al capitano e tu eri stato fustigato e mandato al bando. E però poi ha un ricordo molto confuso e finita. Ora sono tutti e quattro a terra che si stanno risvegliando, ognuno con i propri ricordi. Tu sei vestito? Sì. Ok, grazie. Da donna. Via. Mezzo, non so se ti interessano i commenti. Aspetto le conversazioni. Se la pietra è ancora a terra, io... Ah, per le rase. Cioè, Se ci vai, ci sono io. Chi è? Mia cugina. Ah. Se la pietra è ancora a terra ed è vicino a qualcuno, io evito quel qualcuno. La pietra è saldamente nelle mani di Quaker. Perfetto, evitato. E vado a vedere se... Lo scrigno è a terra, al centro della stanza. Anzi, sul tavolo di pietra, attorno al quale siete voi. Sì. Sembra proprio messo lì, appoggiato, non che è caduto lì. Perché lui, se mi ricordo bene, l'ha lasciato cadere. Questo no, me l'hai raccontato. No, a lui gli ha bruciato, l'ha tirato fuori e poi è partito. Ah, e poi è partito. Ok. Io ignoro chi ha la pietra, ignoro Ray e vado a vedere se gli altri due stanno bene. Grazie. Perché io me? Perché non ti ho mai parlato, non ti ho mai visto. Hai ragione. È vero che sei Silvio. Sì, sei vestito da donna. No, sono vestito normalmente adesso. No, quindi da donna. Quello non lo cago che c'ha la pietra in mano, non voglio manco vederlo neanche. Vado a vedere se gli altri due stanno bene. Io mi alzo un po' lentamente, ma ti faccio cenno che sto sono a posto, cioè. Allora, a livello pratico, cioè a parte magari un crollo psicologico, però, esatto, quei quattro di confusione più che altro, immagino. Tutta la roba che avete usato, tutti i danni che avete subito, eccetera, è come se non li avessi fatti. Però tutti e quattro voi, tranne Philip, avete un livello di esaustione, che vuol dire che avete quindi saliamo di livello. Avete svantaggio sulle prove. Le prove. Quindi 7 più 1, no? 7 più 1. Sulle prove. Per il resto avete quello che avevate prima di entrare. Prove si intende solo le abilità o anche colpire? Cosa intendi per prove, scusa? Prove. Ti resistenza, dov'è? Sì. Cioè, no, beh, per capirci. Prove no. Di abilità, ma il tiro a colpire non è una prova. No, aspetta. Disadvantage on ability checks. Dov'è che si abilità sono abilità? Sono no, niente, non l'ho segnato io. Vabbè, abbiamo meno uno. Beh, facciamo un long rest e si va via. Avete svantaggio. Sì, svantaggio. Facciamo un long rest e va via. Ma io forse posso anche rimuoverlo con questo ratio. Sentite, c'era un tizio incappucciato prima. Ah, quindi aspetta, il tizio incappucciato ancora è andato via mentre lui entrava. L'ha visto lui, però. Ah. Noi ci svegliamo. C'era un tizio incappucciato prima. Ah, sì. Che rifaceva delle strane robe. L'abbiamo visto anche noi quando siamo entrati. Dove è andato? Dopo ti chiedo quando tocca a me una cosa. Non lo so. Prima vi avrà somministrato del retinolle, poi è scappato via. È scappato di là. Io faccio una prova. Bravo, Salla. Indirizza l'avventura. Faccio una prova di percezione. Cosa però prima di andare a inseguirlo, mostratemi dove ha toccato. hai il babboccino dove indicare le cose? Cioè, lo scrigno è evidente o devo fare una prova di percezione? No, è evidente. Ah, ok. Ma non mi accorgo dello scrigno. Beh, però la faccio stesso per vedere quando mi accorgo dello scrigno. Cioè, se subito o dopo un po'. Allora fate tutti un perception. Con svantaggio. Ma devi vedere dove ha toccato da qua sopra. Anzi. Sì, vai. 13. 13. 17. Boh, 21. Svantaggio? Sì. 18-19. Tu, Sirron, sei il primo che si accorge dello scritto. Lo prendo. Tecnicamente sono io il primo che si accorge dello scritto. Sì. Ma sicuramente non lo toccavo. Esatto. Comunque. Va bene, se vuoi toccare dove vedi, sì, sono davvero il bamboccino. Succede qualcosa? Manca in quel bamboccino il punto dove mi ha toccato. No. Ti chiedevo solo una cosa, un dettaglio. Quando abbiamo vissuto la visione, tu mi hai detto che l'ultimo ricordo era di me sulla nave a festeggiare. È ancora così? Sì. O mi viene in mente qualcosa del lasso di tempo che mi manca? No. Okay. Ti ricordi semplicemente che eri a festeggiare, a folleggiare sulla nave e poi eri nudo nella neve. Sei stato svegliato, esatto, da Arian e Eric, nudo nella neve. Ok. Ok, se io quando mi accorgo che lui prende lo scrigno, intanto mi sono rialzato, vado. Forse è meglio che continui a tenerlo io. Io mi fido di te e potrei anche lasciartelo, in effetti. Anche visto quello che è appena successo. Allora, Quakert, però tu, sì. Di fatto, dello scrigno di Sirron ti ricordi. vedi questa scena qua. Tu non sai che si errone Ray. Fammi un perception con svantaggio. Sì. Anzi, un insight. O un perception, come vuoi tu. Decidi tu come e spieghi. Ti faccio una domanda sul mio percepire una cosa. In base è un perception. Allora. Ciao, vabbè, è uguale. Sì. E con, seppure... Con svantaggio, però, svantaggio... con svantaggio però vantaggio, quindi si annulla, un tiro solo, scusa. Ho già tirati due. Rifai. Vabbè, tanto il più basso è un 21, quindi direi che va bene. Allora va bene. Ora che lo vedi bene, effettivamente ti rendi conto che quel colore rossastro, cioè... sembrava andare via giorno dopo giorno e insomma non è ben sistemato. No, ormai è quasi smesso. Alcuni tratti non sono quelli, insomma. Bisognerà farsi andare a vedere. Sembra, cioè, effettivamente potrebbe essere. No, in effetti. In effetti ti sembra che sia Siron. Ma parla dei capelli, è rossastro. Sembra che sia Siron. Quello che si faceva chiamare Ray è Siron. E chi è Siron? Io nel frattempo mi sa che non ha fatto 21 per la mia condizione. Sì, ha fatto 21, perde anche con due livelli però. Vabbè, cazzo, come chi è Siron? Io mi faccio l'asset restoration per togliermi una condizione. Ma era una battuta o seriamente non ti ricordi chi è Siron? Non so se lo sa il mio personaggio. Ma certo. E questo ho fregato. Sì, no. Non sei... ma è serio questo? Vai. Dice che non sa se il suo personaggio sa chi è Siron. Sì, che lo sai, ci hai fatto un viaggio insieme. Tu hai la festa sulla nave? Cos'è? Ancora i postumi? Ma che cazzo? Soprattutto dopo quest'ultima sessione psichedelica. Questa è come le medaglie, cazzo. Esatto. Ma... nel senso, so che è lui. È lui, lo riconosci. Ti rendi conto anche che se lui... anche se ora è un po'... leggermente camuffato. È truccato, però è lui. Cioè, ti rendi conto che è lui. Non ci avevi fatto caso perché non te ne fregavo un cazzo di Ray. Però adesso che ci fai caso, te ne rendi conto. Ok. Anche perché c'è quel cazzo di scrigno. Anche perché, esatto, mi vedi prendere lo scrigno, quindi è ancora più facile collegare la cosa. Ok. Ogni tanto io l'ho sempre chiamato Sir. Sì. Altro piccolo dettaglio che poteva aiutare. Da tipo da quando abbiamo iniziato il viaggio sulla nave delle Baldracche, più o meno. Sì. Mi chiamo Sir. Molto bene. Ehi tu, ma non eri morto? Già, a volte sì. Ritornano. Beh, allora diremo di mettere fine. ehi, fermo. Dovrò cambiare il nuovo titolo. Ho personaggio. Dovrò cambiare compagnia. Non posso cambiare. Non posso avere tre figini nella stessa campagna. Non esageriamo adesso, va bene tutto. Ma uno tornerà. Quando avrà risurrezione, uno tornerà. E mi sono camuffato in questo viaggio solo per. Vabbè, cioè non per. Non so come spiegarlo. Non mi volevo nascondere da voi, ovviamente. Io guardo Quake per nascondermi da voi. Ma l'ho chiamato Siron da circa una settimana. Ah, era ovviamente per nascondermi per tutta la storia piccolo dello screen. Piccolo dettaglio che non avevamo detto. Quando eravate entrati, tu avevi visto questa figura incappucciata che c'era nella stanza. E soprattutto avevi notato che aveva mostrato la mano e aveva fatto sciogliere letteralmente il tuo bastino. Questo non l'avevo detto. L'avevi detto? Sì, l'aveva detto. Ah, allora, scusa. Però l'ha ricordato così della serie, la tua coscienza sì. Magari ce l'ha con lui. Quindi no, hai perso di nuovo il bastino, questo era per dire. Ah, ok, giusto, sì. No, ok. Non l'avevo capito. Va bene, vado al canile, faccio prima. cioè, tu mi stai dicendo che tutto questo tempo è passato con noi camuffandoti. E sei sfuggito all'incendio della nave? C'è da dire che non ha passato tutto questo tempo con me. l'ho fatto per sostanzialmente per sopravvivere. Non per nascondermi a voi, ma per nascondermi a chi voleva, a chi non mi voleva più vivo. Quindi Che motivo era questo? Lui non sa niente, ovviamente. No, lui non sa neanche chi. Però la sua coscienza potrebbe avere qualche rimasuglio di un vecchio personaggio. Infatti, Philip vede questa scena qua e non capisce, fondamentalmente. Infatti, io non mi fido più di quello lì, strano. Devi specificare. Esatto, quale? Ce n'è uno ubriaco e uno un travestito. Gli altri due almeno sono. Un travestito. No, sono vestito normale, non sono più travestito. Ah, sì, ok, capito. Travestito nel senso che sono un po' truccato, travestito che sono da donna, no? Non sono truccato da donna. Se una cosa di paglia, la cosa di paglia comunque. se ti piace, non è che io non giudico. Comunque, ho tradotto tutto questo, però la mia intenzione era, una volta partiti da qui per la nostra ultima tappa verso come si chiama? Tana dell'Orso. Avevo intenzione di riappropriarmi della mia identità. Smetti di fare. Quindi smetterò di camuffarmi. Continua a non giudicare. No, infatti, ho voluto provare questa esperienza, ma mi rendo conto che no. Quindi sì, chiedo scusa. Hai un corpo di uomo, ma ti senti donna? Non è certo. Ma non è proprio, sono ancora incerto. Ecco. In un contesto medievale questo è abbastanza inaccettabile. No, e quindi mi scuso per aver in un certo senso giocato con la vostra fiducia, ma ho dovuto farlo per sopravvivere. Oppure ti dirò io com'è andata. Aspetta. Il vero Cyril è morto sulla nave. Noi siamo venuti qui con Ray. Il tizio incappucciato ha fatto qualche cosa per cui noi non ci ricordiamo più che cosa è successo. Ha rapito il povero Ray e l'ha sostituito con un suo lacchè, con il sembianti di Cyril. Che saresti tu? Travestito da Ray. È il posto sbuono. Però applaudo anch'io a questo. Il posto sbuono. Applaudo anch'io. Aspetta, se lui è convinto okay. Ci sta. Ok, ok. Rivolgendomi agli altri due gli dico: tenetelo fermo ed estraggo la spada. Fermo. Ok, ma tu sei dove mi fai la mia? Fermo. Prima di. Ok, però è Cyril. Fai pure. Ok, prima di fare tutto questo, vorrei dire che l'unico a essere a conoscenza della mia identità da sempre è. Iniziativa. È lui che può testimoniare per Catta. Me. Vuoi iniziativa, Catta? Quindi. No, per adesso non attacco. Quindi i traditori sono due. No, dico che in realtà lui ha sempre saputo del mio camuffamento e mi ha aiutato a rimanere nell'ombra. Vedi che Catta, vedi che Phil si toglie dagli stivali, si toglie gli stivali, ma sono più lunghi. Si toglie la maschera e io sono Cape. È ora il momento della mia vendetta. Sappiamo che non stai a noi, però sarebbe stato epico. Vedremo subito se è vero ciò che dici. E faccio per appoggiargli una mano sulla fronte. Hai la febbre. Io lo tengo fermo per permettere Aspetta, ti voglio appoggiare una mano sulla fronte, non ti sto attaccando. Okay. Senti come quando te la mano è... Aspetta, la mano è disarmata. Perché potrebbe parlare di. La mano è disarmata. Quanto darmi può. Allora io farò un'iniziativa. Oh, ok, ma perché? Ma di cosa? Ho detto, chi vuole partecipare, ho detto che tiri iniziativa. Ho detto che io ti tengo fermo e gli permetto di toccare la fronte. Direi che devo tirarla io in ogni caso. Sì. 22. Ma perché tu una volta che puoi essere. 1 meno 1. Però aspetta, svantaggio, scusa. No, perché non è abiti. Sono prove, comunque io non ho fatto. Vabbè, loro hanno fatto 1, io 22. Quindi. Catta? Sì, manco perché. Oddio, grande Catta! Catta, tu sei in un loop in cui non puoi più. Puoi più agire, no, scherzo. Anche lui ha fatto 1, io ho fatto 0. Tu vuoi partecipare? No. Guarda se c'è qualcosa di valore nella storia. È ancora arrabbiato per. La camera. Okay, sì, Nas prende lo screen adesso. Lui vabbè agirà, ma tu hai tempo di agire. Vabbè, sarebbe se vedo bellissimo. Che si sta semplicemente avvicinando sì. Con una mano, io faccio segno. Okay. Non ho niente da nasconderti, però ripeto, parlane anche. Il segno è. Parlane anche con lui, ma ti assicuro che sono io. Non ho modo di provartelo, certo, ma... Catta? Non avrai modo di mentire. No, io ho modo di provarlo. Ah, nel frattempo lo scrigno me l'hai dato. Lo scrigno? Volevo chiederti una cosa. Apro qui una parentesi solo mia. Anche Giulia aveva una domanda. Nel periodo in cui l'ha avuto lui, lo scrigno, sì. Ho avuto la sensazione che mi desse meno fastidio la presenza... Cioè che avessi meno... possessioni, chiamiamole così. Che fosse un modo, mi dà l'idea che lo tiene leggermente più lontano da me, mi infastidisce meno. Mi manca da un lato, però dall'altro, cioè, pro e contro, vorrei capire la mia sensazione. No, cioè, ok, capisco cosa vuoi dire, è vero che non hai avuto tante possessioni, però è anche vero che non stai bene, cioè senza lo scrigno, cioè io, okay, cioè, tipo di notte non dormi bene. È più forte la volontà di volerlo, sì, che di lasciarlo. Allora, prima gli dico, guarda, per ora lo tengo io, poi in un attimo di calma ne parliamo, potrebbe essere una possibilità di dartelo, però per ora lasciamelo, ne ho bisogno. La domanda che... scusa, Catta, no, poi... No, ma non è... te la faccio dopo, non è su questo. Okay, quindi vabbè, ma in generale sul mondo. Sì, stava pure. Perché fino adesso, tutte le volte che avevo usato la magia, no? Sì. Tutti mi hanno fatto, cos'è? Il potere degli dei? Ah, cos'è il potere degli dei? Cioè, in pratica, la magia non è così... Allora, la magia no, non è così diffusa e soprattutto quello... in queste zone, immagino. Soprattutto quello che vi stavo dicendo... No, ma anche il capitano, cioè anche uomini di mondo che magari... Allora, la magia si sa che esiste e si ma sa non che è visto c'è. Di buon occhio. Non è molto diffusa, anzi per niente, e soprattutto sta un po' scomparendo, sta un po' morendo. Quindi in realtà sì, tendenzialmente è comunque... utilizzare la magia non è qualcosa di normale. Però sì, diciamo che si sa che esiste, si sa che chi sa utilizzare la magia, però è visto spesso con sospetto, ecco. Mm-hmm. I, diciamo, guaritori, i chierici sono visti meglio perché si pensa che utilizzino questa magia in modo un po' più, diciamo, fare del bene. Esatto. Mentre i maghi e i stregoni sono visti abbastanza con sospetto. Quanto è passato dalla storia che abbiamo visto? Allora, sono passati... dalla più, più o meno 90-100 anni, se non sbaglio. Era più frequente però, una volta. Sì. Sì. Niente, basta, finito. Sì, sì, ok. Comunque no, la domanda che mi hai fatto... Non ti do lo scrigno per ora. Ok. Tu Catta. Sì. Va bene. In realtà l'imposizione delle mani è totalmente inutile perché posso farlo anche a 60 piedi di distanza, ma era per vedere la sua reazione. Ci sta. E poi faccio sensi divini. No. Sono tentato di fare una prova per fregare lo screen. Quello che volete fare, fate. Tecnicamente sì, dimmi cosa fa Catta intanto. Vendetta per la sciarpa. Sensi divini per individuare entro 60 piedi la presenza di qualsiasi non morto, celestiale o fiend. Demone, okay. Demone. Ok, non c'è la presenza entro 60 piedi di queste creature. Okay. Oppure se il luogo è consacrato o dissacrato. O dissacrante se c'è la dissacrato. No, allora non senti nulla. Non senti nulla. Senti come un ricordo. Però poi scompare un ricordo di qualcosa, però scompare subito e non c'è. Come se cominciasse a sentire, beh, forse qua, e invece no. Ok. Non morti, non ce ne sono. Io la sciarpa al collo. Tu hai la sciarpa al collo. Ma la tolgo e gliela butto in faccia. Ok. Diversivo! Mentre distratto. E poi provo, faccio una prova di atletica per provare a fregargli la piena lo scrigno. Vai. Io posso fare una. Prendi questo! Sì, ma tu di svantaggio e lui no. Perché lui se l'è tolto la cosa dello svantaggio. Te lo sei tolto? Ah sì. 18. Ma posso fare un contrapposto? Non assolutamente sì. Certo. Sempre athletics o. Non so, scegli tu. Puoi fare anche come vuoi tu. Anche destrezza. Sì, se vuoi. Tipo dimmelo tu come vuoi fare. Lui prova di fatto a. Di forza. Ti lancia la sciarpa e prova a prenderti lo scritto. Cioè, perché io direi faccio un tiro di destrezza, ma non c'è un'abilità Puoi fare Slate of Hand per toglierlo, puoi fare un acrobatics se ti vuoi buttare, dimmi tu quello che vuoi fare, raccontami. Cioè, no, se c'è un cestino vicino, istintomi, è un'acrobazia per fare una capriola. Esatto, mi verrebbe da muovere, quindi acrobatics. Puoi fare acrobatics, puoi buttare a terra e fare una capriola per andare lontano. 9. Ok. Ti ruba anche delle monete. Cosa fai? Però lo prendi in lotta in realtà. Non so se lo strappi diretto. Io ce l'ho in mano solo, perché l'ho appena preso. No, come decidi tu. Ci sta, vabbè, lo prendi. Lo strappi. Okay. Lo rompi. Si spezza in due. E vediamo uscire un... No. Aspetto la sua reazione. Vabbè, ho il tempo di rispondergli a voce, non so la iniziativa. Puoi fare quello che ti pare ora. Ti dico, ok, tienlo, ma continua a proteggerlo. Non, non farne nessun tipo di uso particolare. Ti prego, proteggilo e basta. Dico, mi sciarci addosso. Io mi sono fidato di te. Il territorio. No, no, non mi interessa, te lo ripasso. Era solo il mio personaggio fa un sorrisino davvero e lo riprende tipo rassicurato, cioè ora che so che lui non ha tutta questa smania di volerlo sono molto più sereno. Okay. E me lo metto però a sto punto dentro. Cosa fate ora? Tu hai sempre la mano sulla mia testa in tutto? No, questo non è neanche toccato. Hai fatto solo la scena. Okay. E quindi sì, lo metto dentro. Cosa fate? Andiamo dove Filippo ha detto che è scomparsa. Raga, che cazzo avete fatto? Cosa è successo? Non lo sappiamo. Se probabilmente è la figura incappucciata. Siete drogati. Probabilmente è la figura incappucciata che hai visto. Ci ha fatto vivere. Non so. In un certo senso, come se avessimo vissuto delle visioni. Ci ha mandato in trance. Abbiamo visto cose. Sì, probabilmente. Non mi sembra il caso di seguire. Io chiedo agli altri se hanno. Cioè, descrivo velocemente due o tre cose. Chiedo agli altri se hanno visto le stesse cose che ho visto io. Sì. Abbiamo fatto all'incirca quello che potrebbe essere definito una sorta di viaggio onirico. E pensate sia il caso di inseguire questo tizio? Non lo so, a me dà l'idea che questo tizio sia parecchio pericoloso. Non credo sia stato lui a provocarlo. E cosa credi? Che c'entri la pietra, quindi? Che ci sia stata un'interazione magica di qualche tipo tra il tuo scrigno e la pietra. Ora sono spenti, tra virgolette, cioè non fanno nessuna luce. La pietra non fa più la luce forte che faceva prima, è molto più soffusa ora. Ok, però qualcosina fa. E lo scrigno invece è completamente no, lo scrigno anche come adesso, calore. Quasi quasi riprenderei sia lo scrigno che la pietra fa. Esatto. Chiedo fare la pietra e chiedo a Erion se vuole provare. Magari più tardi. Io dico di no, comunque. Beh, sai che te lo possono rubare lo scrigno, non te l'hanno chiesto facilmente. Mentre lo offri ad Arian. No, ma io direi di no, non per il mio scrigno, per la mentre situazione. Mentre lo offri ad Arian, senti anche però una sensazione un po' di disagio, Quaker. Mio e nel momento ti ritrovi nudo. Può succedere, nella neve. Che c'è? Come scusa? Può succedere. Come se, cioè, sì, gliel'hai offerta, però alla fine, cioè, perché l'hai fatto? Non è forse, cioè, alla fine è giusto che ce l'abbia tu. Sì, è vero. Sì, è vero. Indagheremo su queste cose più tardi. Magari adesso è meglio. Domanda: mi ricordo solo vagamente la descrizione di questa stanza. Oltre al tavolo, stanza insomma, grotta. Oltre al tavolo c'è altro, una libreria che so. No, non c'è è niente. Una stanza. No, è una no, stanza però, se vogliamo cominciare a seguirlo, inseguiamolo. Se no, lasciamo. Io però ci andrei con calma perché questo tizio mi sembra parecchio potente e pericoloso, quindi evoca il cane, cioè non andrei alla in questa carica stanza, c'è una scalinata che e poi c'è, si apre un piccolo cunicolo molto stretto dove è passato. Esatto, ma lui era alto basso, cioè un umanoide normale medio, però non l'avete visto in faccia, anche totalmente incappucciato, totalmente nascosto. Come era vestito oltre al cappuccio, nel senso una cazzo di tunica nera incappucciato. No, vabbè, magari aveva dei simboli, no. Simboli. Sgargianti stivali, magari aveva dei simboli, la luce era la dei bottoni qua in cappuccio, la luce della mia lancia è ancora attiva? Se è... no tua lancia non è attiva. Okay. Ok, rifaccio la luce sulla lancia. Ok, e dobbiamo per forza immagino infilarci in fila indiana essendo stretto. Sì. Ok, se volete chi va davanti? Tecnicamente dovrebbe andare il cane. Oddio, volendo Però potresti evocare. Dai, nuovamente... basta essere scoraggiosi. Qualcuno li voleva da. Non so. Questo cazzo. Cioè, posso andare anch'io, però ho bisogno che la luce stia sul. È il cunicolo da dove è scappato il tipo incappucciato. Yes. Sì. Adesso. Alla battaglia. E carta parte. No? Seguitemi. Io vado per inseguirlo, però non sono il primo. Tipo, vedi lui che... Io vorrei andare, però... Perché... ragazzi, allora... Quindi... Insomma... Vado io per... Io vado per inseguirlo. Ma... Andiamo. Tipo, va dietro, dietro gli altri. Dai, andiamo. Andiamo. Mi avvicino all'ingresso. Mi faccio, beh, andiamo. Nel frattempo mi appoggio come se fossi vecchissimo alla lancia. E poi appena uno di voi passa mi rimetto dietro. Vai, sceglietemi un modo. Scusa, fatemi un modo creativo per scegliere chi va davanti. Scusa. Vabbè, se no senso fare. Vado un... io tipo, davanti... tipo le pagliuzze, quelle robe lì. No, è quello che dovrebbe andare. Se tu magari stai in. Io sto o secondo o terzo per la luce. Sto dietro. Allora qui. Io. Terzo. Va bene, va bene. E poi Filippo. Vabbè, lui andrà ultimo. Immagino e via. Vabbè che... Io vado avanti, tanto tu sei... e mi tanto casco lui è piccolo, protezione dal bene e dal male. Non so come funziona nella quinta il movimento, ma lui può eventualmente passare in mezzo a noi, essendo più piccolo. Attraverso una lana. Ognuno di voi può passare se gli altri lo fanno passare. Ah, ok, e questo sì. Ok, basta, allora posso. Direi che l'ordine è questo. Quindi io nel mezzo. Quindi chi c'è? Qual è l'ordine? Quake, io. Arian. Sì. Quake, Arian. Io. Sierra, Eric e Filippa a chiudere. Giustamente proteggete il ladro. No, proteggete. Ok, andiamo. Va verso il basso o verso l'alto? Hai detto il cunicolo? Allora, il cunicolo va inizialmente. Allora, questo scontro è più o meno al saltetto. Poi va un po' in farlo. Giù, poi va un po' in su, prosegue. E, diciamo, va molto lungo quindi. Abbastanza lungo, sì. Posso fare un perception generale per le... Cioè, non so se si usa per... No, sopravvivenza per le tracce. Fermi. Allora, per le tracce. Per essere certo che sia passato di qui e che sia da solo. Vai, fammi un survival. Sempre con svantaggio. Cazzo, era un 20 questo. Peccato. 15. Beh, sì. È un curriculum di pietra. Mm-hmm. Non ci sono poi tutte queste tracce da cercare, però sì, ti sembra evidente che sia passato di qua. No, ma oltre a questo puntavo sul fatto che fosse da solo, che magari io dopo pochi metri ce n'era un altro che alleato, che ne so. Ah, no, ti sembra che sia passato da solo, in questo caso specifico. Però dei segni però non escludi che in passato, qualche tempo prima, ci sia passata qualche altra persona, però magari era sempre lui. Ok. Però adesso le tracce, le poche tracce che trovi della pietra sono le sue. Ok. Dicevi Katta? Sì. Ci sono dei segni sui muri? Dei simboli, dei graffiti? No, non c'è nulla. Arrivate a un certo punto, a un'ennesima svolta, il cunicolo comincia a salire. E sale abbastanza... in modo abbastanza, diciamo, pendente. Una certa pendenza. Intuite più avanti, più su, ci sia anche un po' di luce. Quindi c'è luce naturale? Della luce. Cioè, come se arrivasse a un'apertura. Difficile dire qua se è naturale o meno. Cattabriga, tu sei davanti. Mm-hmm. Fammi... Ma direi qual è la tua percezione passiva? 13. Vi ricordo che chi sta a 10 piedi da me ha più 2 ai piedi di salvezza. Un attimo. Molto bene. Quindi io te. In questo momento. 10 piedi potrebbe diventare. Ci siamo tutti in fila. Boh, sì, voi due. Quant'è 10 piedi? Sono 2 quadretti. 3 metri. Sono 2 quadretti, quindi io e te. Ok, ragazzi. Ora funziona così. E si tira tutti l'iniziativa. Con svantaggio? No, questa no. 16. 15. 16, 15? 11. 11. 14. Sì. Filip? Ha fatto 2 di dado, ora non so quanto. 7. Ok. Praticamente... Cade un meteorite. Catta più o meno. Ecco. Catta più o meno. Quakert ha evidentemente attivato qualcosa che potrebbe assomigliare a una trappola salendo in alto. Questo perché il lando sta in fondo. Una sfera di pietra pietrosa. Distruggila. Dico quanto è grande. Allora, 10 piedi. Quant'è? 2 quadretti. 5 persone. No, sono più di cosa. 3 metri, una sfera di diametro 3 metri di pietra, praticamente... Vabbè, praticamente riempie il cunicolo qua. Esatto, e vi tira giù. Ora. Ma da dietro o da davanti? Da davanti. Se sale, come fa a cadere in salita, scusa. Allora, intanto becca. Grazie, signor. lui non riesce a scappare, ci blocca tutti adesso. No, la sfera si può muovere. No, ma io conto che l'attrito di colpire tutti i nuovi blocchi la pietra. Io non faccio un gran attrito. Vai, mi fa un tiro salvezza, catta, destrezza. Io preferisco. Tu non lo prendi. Scusa, ma nel caso vinci... Quindi... Ma domanda, non avrei mai detto no, non le prove, solo le prove di abilità. Non svantaggio ai tiri per queste prove. Solo le prove di abilità. Il tiro salvezza non ha svantaggio, mi sa. No. Ma scusa, nel caso riesce, come fai a evitare una cosa che riempie l'intero cunicolo? Come modo lo trovo. Diventi invisibile per un po'. Diventi intangibile per un po'. Un corpore. Arriva per te. Si può essere, in effetti. Boh, vabbè, se no dai, prendo quello, non so tirare, dai. Io prendo quello che c'è di qua. Allora, prendi 55 danni. Sei serio? Sì. Ora, ragazzi, ti spiego il ruolo del ladro in una compagnia. Solitamente nei dungeon il ladro cerca trappole. Le voleva cercare lui stavolta. Non è che sai che lui è un ladro e quindi cerca trappole. No. Se io... Vabbè che non li prendo, però... 53 punti. 14. 55 danni. La metà è in automatico, se non sbaglio. Io. No, no, lui. Zirron. Destrezza. Ricordatevi il più 2. Col suo più 16. 16. Più 2. Allora ti salvi. Niente, 55 danni. 13. Non c'è di che. Ah sì, tu sei prono, Quaker. Ma prendi dimezzato, 13. No? 13 col più 2? Io sì. Allora 55 danni e prono. No, però... esatto, prendi prono per forza, Vez. Se lo passi non prendi la metà? No, lo passi. Lo passi, vuol dire che lo eviti. In qualche modo il vecchietto riesce a evitarlo mentre poi vedi. Tipo con lo prono per forza. Sei morto? Sì. Ottimo. E ma non penso di essere l'unico se prende i danni. 21. No, ti salvi. Filip. È acrobazia o destrezza? Ah, volendo, destrezza, ognuno di tiro voi, salvezza, in realtà, io non ve l'ho chiesto, ma volendo avete la possibilità. Non c'entra un cazzo, 16. Avete... Ok, sì, vero, 16 lo passi. Qualcuno di voi volendo aveva la possibilità, volendo, di provare a fermarla. Lui l'ha fermata. Ormai. Va bene, tardi, ci siete così. Io posso provare? Bene, allora. Ora mi fai un bel tiro sul morte. Altro turno dopo. Vabbè. Scusa, se ci vado a 5 danni, quanta vita c'hai tu? 51, secondo me. Sono un livello 10. Guarda, io ho 53. Io 56. E sono un livello indietro. Beh, tu perfetto. Va bene, ragazzi. Sì, io anche se li avessi presi, allora, se mi arrivo uno. Come l'altra volta. Semplicemente dicevo, vabbè, raga, non possiamo proseguire, evidente. Quindi? Cosa fa? Quindi chi deve? Solo io e... sì. Lo lasciamo lì. Ok, gli riprendo lo scrigno. e guardo un po' del genere. E guardo se per caso si è danneggiato. Sono curioso. No, lo sei danneggiato. È tipo Tom e Jerry. Secondo me l'ha lasciato passare apposta. Se lasciate passare un turno, mi fai un tiro su... Com'era 10? È sposata all'ultimo secondo. 10 più il buono. No, 11 più buono. Lo fermo io. Mi rialzo e chiedo se stanno tutti bene. Ma sì, dai, più o meno. Siron non molto, però dai. Secondo me adesso si stabilizza, lo stabilizzo con medicina. Ok. Devi fare la prova. Giusto? Non lo so. No, lui se l'ha tolto il coso. Ah, giusto. Cosa fa? Ritiro o metto un danno? Altra leva. Quanto fai? Ah, perché c'è in bilico, allora no, sei... Ah, ma è in bilico, dai. In bilico? Quant'è? 10-13. Sì, dovrebbe essere, lo stabilizzi. Vabbè, allora cancello la cosa. Chi se lo porta in braccio adesso? Ma magari possono curarmi. Ho finito. No, ti ho detto che quelli che hai usato nelle cose non... Ah, non li avevi già prima? Finito. Ok. No. Cioè, puoi fare una prova di percezione. Possono curarmi. Chi cazzo può curarmi? Ci può. Cosa fate? Farò un'imposizione delle mani sul cadavere, cioè sul... Ti faccio un deception. Non mi riesce tanto bene. Ho finito le magie e vedi le mani che brillano. Cosa fai, cat? Con la lancia luminosa. Cosa fai? È in posizione delle mani. Sì. Tocco il cadavere del morto che... Ma è in posizione per le mani per incenerirlo o... Dipende da quanti problemi mi dà. Gli cura 5 PF. Che merda! No. Sono ben 4 in più di quelli che ti servono. Che devi vedere Siul. Quindi ringrazio. Torni cosciente. Ti compagno del cazzo che si... Vabbè, sfrutto la mia nuova abilità. Ma cosa sarebbe successo se avessi fatto scazzo e non morte adesso che era morto? Sfrutto la mia nuova abilità di curarmi 3 volte. Magari correva via. Sfrutto la mia nuova abilità di curarmi 3 volte il mio livello, quindi altri 18 PF. Sì. Ah, fantastico. Io tocco Kat e gli curo 11, 14. Vedi, è così che si cura, Katta. È così che si cura. Sì, lui è così che si cura. Ma quant'è Katta? Adesso 35. Io 23. Quante altre palline ci sono? Io ne faccio un'altra. Guarda come spreca l'incantesimo questo qua. Dai, ho fatto anche salire. 11, 14, sempre 18. Vai. Sei a 53 adesso, Katta. Grazie. A Sirro? A 23. Cioè, non è che adesso tutti sti incantesimi. Ma pozioni non le avete? Sì, ma perché usarle? Ho pronto qua. Costano. Ok, aspetta che ti curo. Ditemi cosa fate. Raga. Beh, andiamo avanti, direi. Devi riuscire da qui. Magari no, raga, dobbiamo tornare indietro, cioè è pericolosissimo andare. Ah, più in alto dovrebbe esserci la fine di questo tunnel. Potremmo controllare il resto del tunnel da qui alla fine con più cautela. È poco più in alto sempre alla fine. Beh, allora andiamo avanti con calma, stiamo attenti a dove mettiamo i piedi. Ormai ci siamo. Chi va avanti? Teniamo sempre la stessa fila ormai. Va bene, dimmi cosa fai, Quaker. Memore di quello che è appena successo, vado di procedere con più cautela e ad ogni passo controllo che non ci siano, non so, delle mattonelle sospette. Per precauzione avanzo strisciando contro un lato del muro. In realtà c'è una fotocellula di movimento, quindi avanti, ti fotte comunque. Poco più avanti, praticamente, il cunicolo finisce e c'è una specie di scala che dà in alto. Su vedi illuminato. La scala ti... Da che tipo di luce? Una luce come di fiaccole, di fuoco. Ok, si sente qualcosa? Fammi un perception. Mm-hmm. Può farlo più di uno con svantaggio. Yes. Possono farlo altri? Non so. 7. Allora, boh, non senti nessun rumore. No, 8, scusa. Allora senti un milione di rumori. Io le forze di Sir. Io mi sporgo da, tipo, dalla spalla di Quake e mi casto Guidance su di me. Sì. Che tanto è un country. E poi faccio un Perception. Vai, tutti i Perception, dai. Faccio 18, 22, 24. Uh-huh. Beh, io penso che sono troppo indietro per farlo, quindi aspetto. 9. Ok. Con l'altro dado sempre 20. Maledetto svantaggio. Allora, sì, senti il crepitio come di un fuoco acceso. Mm-hmm. Beh, ah, non quelle, è un fuoco fuoco. Un falò. Però niente voce. Vabbè, devo prendere controllare A. È come se, sì, insomma, facesse, diciamo, un minimo di eco, questa è una specie, potrebbe essere una specie di grotta, su quella sopra. Ok. Vabbè, mi giro verso Sirron e gli faccio una cura. 6. Cioè, con lui tiri 8 dadi, con me 1 e fai 2. Vabbè, ora senti, cioè, no, va bene, vado a 29. E io non lo so se non è che mi pagano, non ho scritto medico della mutua. Io, ragazzi, non lo so, parlo piano, ovviamente, più piano possibile. E dico agli altri che sarei un po' restio ad andare avanti. Insomma, è pericoloso sto tizio e tutto questo posto. Non lo so se vogliamo cambiare il titolo della puntata un'altra volta. Dai, andiamo avanti. Quake, cosa fai? Prima di salire la scala, è una scala di pietra, no? È una scala di legno. Ma a pioli o? Sì. Cioè, no, non a pioli, no. È tipo una scalettina di legno. Sì. Qualche passo e poi più su si apre un po'. Ok, con un bastone e un altro lungo arnese premo ogni gradino della scala. Ok, sono tutti di legno. Certo, se è una pietra che non so. Sì, infatti, se c'è una pietra che viene giù, non è che se c'hai un passo indietro di sale, però... Riesci effettivamente a attivare la trappola prima di salire. No, non è vero. Sono tutti i gradini di... Sarebbe stato ridondante una seconda pietra. Ci stava, però. Non dare idea al master. Vabbè, io seguo Quake. Ora la spingono su. Vabbè, ovviamente se tutti potevamo fare come cosa nella Divina Commedia, che sono quelli che spingono la pietra che poi ruzzola giù e loro andranno a respingere su. Cosa chi erano? Non è corretto. Va bene, e ci muoviamo. Sì. Vabbè, sì, se tutti proseguono, proseguo anch'io. Non faccio troppo. Proseguiamo. Va bene. Ma tu sei in mezzo. E poi 29 punti fa. Vabbè, non so se lo dai per scontato, ma tiro fuori il mio bastone, sono già pronto a... Ok, sale Quaker. Ma lui quando si riprende non si accorge di nulla. Di cosa? Tipo che è uno scrigno. Ah, non lo so. Boh. Me ne accorgo. Magari non è, cioè non è subito te ne accorgi, però te ne accorgerai. Allora no. Se lo sento. Sto facendo degli studi. Fammi un tiro. Svantaggio? No, normale. Fammi un tiro. 11. Sì, dopo un po' te ne accorgi. Adesso me ne accorgo. Sì, adesso te ne accorgi. Gli metto la mano sulla spalla. È il momento più lo so, però so che non è questo il momento. Ma ce l'hai tu, vero? Allora, vedete sotto, vedete quei car che certo, la sembra che portasse sfida. E poi c'è tutto. Non lo voglio rivedere. Sì, no, che vero, no, ma dopo te lo. Ok. Ho solo verificato che ce l'avessi. Anzi, aspetta. No, ok. Quaker, tu arrivi su, vedi che i tuoi compagni tardano a seguirti, come spesso capita. Sto conducendo. Comunque, dei test. Mi hai ridato lo scrigno. I tuoi compagni tardano a seguirti, però sei in questa grotta, abbastanza anche ampia, e sarà nuovo ritmo. C'è un focolare al centro e dei giacigli, però non c'è nessuno. Quanti giacigli ci sono? 3 giacigli. Quanto è grande la stanza? Abbastanza grande. Ci sono tracce di sangue, qualcosa. Tu non sei ancora arrivato. Tecnicamente. Ah, sì, vedi anche sì, delle pelli di animali ammassate in un angolo, delle tracce come di un pasto lasciato lì. Mm-hmm. Io posso usare sopravvivenza per capire. Voi salite su, quindi alla fine. Sì, dopo sì, dopo sì. Va bene, anche se hanno due ore. Anche Filippo. Se non succede niente, userei sopravvivenza per capire da quanto è acceso il fuoco, da quanto tempo è stato abbandonato il posto. Okay. Riesco a capire. Voi tre siete su, voi due salite o no? Sì. Tu sali, Filippo? Ok. E con l'aggiunta del peso del quinto personaggio si attiva. No, pensavo. Ok, siete su. E a un certo punto, da delle pietre, delle rocce più avanti, compaiono delle figure. Maledetti ratti, vi stavamo aspettando. Compaiono delle figure. Dove sono i ratti? Ora. Io faccio come una volta. Dove? Nessuno entra nel rifugio non invitato, soprattutto dall'entrata di dietro. Ora subirete la nostra. Che cosa inquietante. Entrare da dietro, dici. Mi sembra quasi un revival della. Delle visioni, perché queste voci sono super animalesche, soprattutto questa voce che avete sentito era veramente animalesca. Sì, beh, ma allora interpreta come una specie di grugnito, ed era da una figura che è una specie di cinghiale uomo che vi sta buono. Non devi perché mandare. Non ho capito il collegamento con le visioni. Perché è ancora tutto strano in quel senso. Nel senso che anche questo è un po' raccapricciante. Un cazzo cinghiale uomo che vi grugnisce contro. Okay. Un lupo, un nuovo lupo, tira un ululato e un cazzo di orso umano gigante comincia a venirvi addosso. E ora si tira l'iniziativa. Ok, porca troia. E io al peyote dove avete nascosto? 15 10 13. È incredibile come il chierico con meno una destrezza faccia sempre di più dell'altro. È assurdo. Allora, ditemi tutti, Eric. Io 10. Nessuno sa. Eriad 15. Sirrob 13. Cos'è che hai detto? Philip. Lo sa con la classe. Ho 21. Come non so qual è la mia classe? Quakert 13. No, lui intendeva lui. Giulio intendeva lui, no, lo so che è Monaco, anche perché ho visto la visione, un 2 più 2 l'ho fatto. Sì, dai. È Monaco scarso, però. Anche perché ormai le mie tuniche le conosci bene, soprattutto le tasche interne. Ormai sa bene, no? Certo. Mentre combattiamo. Anche questo è inquietante, da dire. Com'è, durante un combattimento, tu cosa fai? Colpisco lui e poi rubo un tanto scrigno. Per poi tutte le volte che lo scrigno sarà a vista. D'accordo. Allora, un attimo. Nessuno di questi tre potrebbe essere la figura incappucciata. Boh, non lo sappiamo. Cioè, l'orso immagino di no, capiremmo la stazza. Orsù. Tu quanto hai fatto, Kat, iniziativa? 13. Quindi cominci da qui. Va bene. Filip, sta a te. Ah, sì, Filip, fatto 21. Scappa. I tizi. Sì, sarebbe il caso. I tizi hanno fatto qualcosa di. Allora, mi fai conoscenza o un'intelligenza. Prova di intelligenza. Oppure di natura. È uguale 10. 10. 10. 10. Bravo, mi piace. Ma sì, dai. Il lupo presumibilmente potrebbe essere un lupo mannaro, di quello che si narra nelle leggende. Gli altri, boh, però sono animali simili. Ciò che può essere utile. Ok, e sai che qualcuno ha un'arma in mano, no? Sì. Tu hai ciò che può essere. Lo combatterò con l'arco. Ti direi. Allora, il lupo c'ha una lancia. No, non le ho io, le ha preso tutto lui. Il lupo ha una lancia. Il cinghiale ha però qui c'ha un'arma d'argento. Un maglio. Mentre l'orso ha un'ascia. Minchia. Allora, una grande ho visto che l'ascia, ma visto che l'oro è più nobile dell'argento. Io so che il tizio è un lupo mannaro, quindi prendo la freccia d'argento e la sparo sul lupo mannaro. Ed è tu la freccia d'argento? Sì. Così dico. Sì. Un grande dispiacere di Philip e di Eric. Cazzo. E uso anche il attacco poderoso. Quindi faccio 17 più 5, 22. Per colpire? Sul lupo? Sì. Sì. E poi faccio anche un disarming strike. Quindi io gli faccio cos'è un D8 l'arco lungo, sì. Allora 2 col D8 più 7 dell'altro D8 sono 9, 19 sono 19 danni e lui deve fare un tiro salvezza sulla forza. Allora gli fai 19 danni, ok. È morto. Ah, non era pari. Devo fare un tiro sulla forza, sì. Quanto deve fare? Sarebbe cos'è? 8 competenza, quindi 11 più destrezza 16. Ok, non passa. Perde l'arma e gli cade l'arma. D'accordo. Va bene. In più spara un'altra freccia al cinghiale. Okay. Però normale stavolta. La freccia normale? Sì. D'accordo. Quindi devo fare 8 più competenza più saggezza. Però per questo faccio solo 14 per colpire. Beh, è un arco magico il tuo? È sempre 8 più... No. Ok. Quanti danni fai? Sì. Sono 17. Ok. Va bene. Ah, in movimento faccio un passo... Ok, ti addossi alla grotta o vai proprio prima dell'entrata del cunicolo invece? Cioè, se vuoi andare più indietro possibile sbatti contro la parete della grotta, se no se vuoi puoi andare all'inizio del cunicolo. Sbatto contro la parete della grotta. D'accordo. Boom, proprio. Aiuto. Ah, sparo. D'accordo. Allora... Il lupo è molto infastidito da ciò. Ma se io mi faccio mordere dal lupo divento anch'io. Ti puoi ammalare. Sì. Sembra divertente. Cos'è il paladino? Sì, non è che c'è, cioè, è semplicemente caduta l'arma, non è che è finita, chissà dove. Anche tu. Allora, non cercare di entrare nelle grazie del lupo adesso. Il lupo se ne frega. Però metà del movimento devo impiegare nel cascato. Avanza su quel bel bocconcino lì. Quello che ha meno punti feriti. E prova ad attaccarlo. Fallisce miseramente a tirargli un'unghiata. Prova a morderlo. Quanta ha di classe armatura? 17. Ah, lo becca. Gli fa un bel borsetto in cui gli fa 38 danni. 8 danni. No, 29. E ora mi devi fare un bel tiro salvezza sulla costruzione. Hai più 2. Bravo. Ma il fatto che... quindi più 4, 7. Complessivo 7? Sì. Ah, licantropia! Davvero? Sì. Ne parleremo in un secondo momento. Ah, licantropia! Pure! Quindi adesso tipo mi trasformo di nuovo. No, adesso mi trasformo di nuovo e lui fa: no, vedi che non è lui! Forse questo scrigno inizierà a tenere lui. e mi ruba lo scudo. Vedo l'ora. Però il mio personaggio sta iniziando a considerare che lo scrigno è sfigato, perché quando ce l'aveva lui gli è caduto un secchio di merda addosso. E quando ce l'aveva lui è stato prima investito da una roccia e poi adesso ha incontrato la licantropia. Secondo te prenderci una roccia da 3 metri di diametro in faccia e la licantropia è paragonabile a un secchio di merda in testa? Sì. Ok. Era solo per capire. Va bene. Ho detto che porta sfiga. Poi omicidia a tutte, cazzo. Due personalità, licantropia. Allora, sta per morire. Ho detto che porta sfiga, a me porta meno sfiga che a te, però porta sfiga. Non è un PG, è un intero party in un unico. Allora, il cinghiale a testa bassa. È legione. Carica il chierico. Il cinghiale, sì. Tu questa armatura del chierico. 18. Salla. Su chi è che avevi sparato la seconda? Prende. Sull'orso o sul cinghiale? Sul cinghiale. Ok. Però mi sa che prendono tutti i danni dimezzati, quindi è una rottura di palle. No, anch'io sono l'arma d'argento. Quindi. No, ma io sono le frecce d'argento, quindi io mi faccio un arco. Ringrazia che non te l'ho rubata io. Allora. Boom. Boom, boom, boom. Allora, Katta. Siamo nella boom, boom. 24 danni. No, è me. No? Il chierico. Che droga. Ah, scusa, ho detto il chierico, ma intendevo il paladino. Ah, ok. 24 danni, e ora mi fai un tiro salvezza. La classe armatura del paladino è 19. Ti prende lo stesso. E 24 danni, mi fai un tiro salvezza sulla costituzione. È una malattia? È una maledizione. È una maledizione? Sì. Quindi se lo fallisci sai già cosa dire. Credo. Maledizione. Non so perché lui potrebbe essere, se no non puoi prenderla, perché lui potrebbe essere immune. Sì, forse tu sei immune. Vabbè, io sono immune a disease. Velenia. Disease. No, è poison. Disease è malattia. Magari vero, malattia. Troppo P. Ci guardiamo, intanto ve lo fa. Disease poi è ci malattia, guardiamo. Vero. Costituzione? Sì. 21. Ok, pazzi. Ora mi fai un tiro salvezza però sulla forza. E che cazzo è? 20. Va bene, rimani su. Lui poi dopo prova a colpirti con il maglio, ma ti manca. Ora sta a Arian. Cavolo, l'avessi colpito gli avremmo dovuto dire che aveva la smagliatura. Dopo si offendeva magari. Scusa, quanti danni mi ha fatto prima? Perché nessuno mi caga? 24. Qualcuno mi risponda! Tu ti puoi curare da solo. Cioè, anche tu in un viaggio hai detto seguitemi. Non è proprio questa cosa. 30 PS. Ma non faccio nient'altro. Raga, fa le cose tipo autistico. Cioè. Vabbè. Cioè, dobbiamo uccidere di quale. E ragazzi, ma quant'è che. Andiamo, aspetta un secondo. Dai, cagate. Dai, cioè, io sono stronzo però. Onestamente. Io curo Kat. Addio. Curo quei. Oh cazzo, scusate, da quant'è quei? 20. 19. Via. Certo. Messi. C'è a me un bicchiere. Il danno gli hai curato in pratica. 24 l'ha fatto. Però ho sprecato l'unico incantesimo di qua. Qualche cioccolatino? Hai recuperato 21 qui? Piacesse. Grazie. Gli offerti pensando non piacesse. Sperando non piacesse. No, in realtà sì. Io dopo aver mi piacciono ma non sono per te. Dopo aver curato Quake faccio qualche passo. Faccio qualche passo indietro verso. Grazie. Verso un'entrata del team. Ok. Giusto per essere meno in raggio di carica. Grazie. Ok, allora. Voi non potete, vero? Scusa. Siron Quaker sta a voi, potete decidere come agire. Cioè, se è con la destrezza. No, scusa. Come volete, non c'è una regola in realtà. Potete dirmi voi se scegliere se far andare uno, se giocarvela con la destrezza, se giocarvela con un dado. Scelta è vostra. Facciamo, vai tu. Così. Vai tu, ti cedo il tuo. Grazie. Quindi va sempre prima Quaker. Dai, lo tengo così. Per vai. Cosa? Aspetta, non credo. Perché abbiamo fatto la stessa iniziativa. Oppure scegliamo il turno, come volete. Come vuoi tu. Scelta vostra, scelta vostra. Per me è indifferente. Oh, quindi la situazione qual è? Hai un cinghiale addosso. Picchia il cinghiale. Si preparate mangia. Il sugo. No. Si mangia. C'è un cinghiale, un lupo. Non ci credo. No, più che adesso. C'è un cinghiale, un lupo. E un orso. Cazzo, c'è pure l'orso. Ma tutti è già addosso, sì. No, quindi. L'orso ancora no. No, l'orso non è ancora lì. Quindi ho capito che sono delle aberrazioni. Ottima domanda, bravo. No, è vero, tiratemi entrambi un titolo di intelligenza. Sia Arian che Quaker. O nature o... No, no, è natura. O natura o... Vabbè, intelligenza è uguale a natura. Vai. Tre. Con svantaggio, tra l'altro. Con svantaggio. Uno. Ah, boh, un cazzo di cinghiale buono. Brutto, molto brutto. Brutto però. Okay. Vabbè, però, boh, sì, no, giusto, c'è il tiro di dado. No. Quindi, allora, cioè, per sua cultura non dovrebbe tipo sapere in automatico che è una aberrazione. No. No. Non è aberrazione, è un licantropo. Cioè che anche gli altri. Beh, che brutta cosa. Cioè, sai che sfiga trasformarsi in un cinghiale? Orso sono mannaro, tante belle bestie. Orso mannaro, cinghiale mannaro, lupo mannaro. A questo punto io scelgo, mi butto in braccio all'orso. Sì, ma devi sopravvivere. Tu il tuo morso l'hai già preso. Hai ragione. Scusa, lupo. Dimenticavo. Vabbè, un lupo orso. Sì, no. Il problema è che devi sopravvivere. Ah, già. Ah, già. Come funziona? Adesso ci guardiamo, lo so. No, ma tanto non è subito. Non si vabbè, ma si può curare. Speravo che uno di voi capitasse. No, io vorrei. Fallo e non avresti, mai, e non avresti mai indovinato a chi sarebbe successo. E... Lo scritto. Non lo so, sta qui. Faccio la mia. Come si chiama? Aspetta che voglio vedere. Incanalo la mia divinità per fare un giuramento di ostilità nei confronti del cinghiale. Cosa fai al cinghiale? Parli. Ti giuro che... di ostilità. Potrebbe essere una cosa epica se me la bestemmia. Ma stronzo! Vieni a te sgumo. Ostilità del cinghiale. Vantaggio a tutti gli attacchi che faccio contro di lui. Sì. Direi di partire con la prima sleppa. Vai. Con cosa lo stai attaccando? Con le pappardelle. Con la mia arma argentata. Come mai stai attaccando con l'arma argentata che non lo sai, testa di cazzo? Perché è l'arma che uso sempre. Non è vero. Sì, è l'unica, no. Che, no, non è l'unica che ho, ma è la mia spada. Altre no. Ma l'hai appena acquistata. Che cazzo dici? L'hai appena trovata. Che cazzo stai dicendo? No, è già da due combattimenti. Ma tanto è evidente che un'arma argentata è più cessa di un'arma di d'acciaio. In questo sistema. Cosa sta? Catta? Non è l'arma che usi di solito. Io ho quell'arma lì nel mio inventario. Ma ce l'hai? Ce l'hai perché te l'ha appena consegnata. No, l'avevo comprata io con i miei soldi. Tipo, non c'è da fa. Ah, sì? Sì. È la prima in alto, vedi. sei solo fortunato, adesso te la faccio spazzare. Certo. Comunque, lo sai che io non sono una presentata palesemente meno resistente di altre armi. Lamentati mi con piace, siete ridicoli, no, non lo sapevo, non ve la facevo trovare. Vai, siete ridicoli. Siete ridicoli. Ho comprato armi aggiuntate casualmente dopo è capitato. Lui l'ha comprata parecchio tempo fa. Io solo mi ricordavo se le avesse prese o meno. Dopo potevi leggere le schede. No, avevo guardato nel tesoro in realtà. Non so come dire. E non avevo guardato che c'avevate cose. Cioè, non pensavo che foste così. Abbiamo un tesoro così ridicoli da utilizzarla come arma di base per evitare il rischio. Certo, cioè, scusa. Non pensavo che il power player arrivasse a questo livello. Vai. Ho fatto 23 per colpire. Ma io no, incantesimi, come faccio l'arma? Quanto hai fatto per colpire? 23. Preso. Va bene, dai. Così lo chiediamo, facile. Vorrei usarlo su un critico lo smite, dato che ho vantaggio in tiro. Questi cambia poco, solo l'argento fa la differenza. Una possibilità su 20, 2 su 20. Che mi pugni su 20. Vuol dire 1 su 10, non è male. Quanti danni fai? Mi faccio. Di solito una magia oltrepassa sempre la riduzione del danno. 11 danni. Vai, solo? Un di 8 più 7. Io spero che sia perché è d'argento che fa così cadere. E poi vado con il secondo attacco. Vai. Con quale arma? Quante quelle sempre la stessa. Vabbè, ce l'ha un paladino. Quasi, peccato. Oh, 25 per colpire. Sì. Basta, e poi uso un incantesimo di primo livello per smitarlo. Parla italiano. E mi fa male il porco. Uso Divine Smite, che mi brucia un incantesimo di primo livello. Sì. Per fargli 2 di 8 danni in più. Ok. No, abilità speciale. Sono sacri. Saranno un buon catta. Sono radianti. Sì, te lo dico io. Vai. Se fosse un morto o un'altra cosa che non mi ricordo, ne prenderebbe anche un altro in più. Dovevo rompere il cazzo, dammi danni. Però sì, come ho già capito su che andrà l'orso. Come ho fatto. Quanto? Sono 9 più 7, 26. Sei un demone. 26? 26. 26. Sei un diavolo o un non morto? Ok. C'è un'altra acqua in frigo, sì. Sì. Ma il cane. Questa ci mettevi anche quell'altro coso. Sì, grazie. Stai a te, Sirro. Se ci mettevo l'altra cosa, non avevo vantaggio. Hai finito, Quake? Hai finito? Io ho finito. Perfetto. Ok, dopo tutto questo... E se il prossimo round ci metti anche il marchio, lo scopi. Conto che nel frattempo l'abbiate già scoperto. Mi dai al volo del... Fammi un tiro di natura. Ah, no, l'ha già fatto. No, l'ha già fatto. Io no. No, fallo. Cosa hai bisogno? Del manuale al volo. Al volissimo. Sì. Quanto hai fatto? 13. Con svantaggio? No, non è una prova di abilità. Certo, ah, conoscenza, hai ragione, scusa. Quindi 11. 11. Allora, il loop che ti ha attaccato è probabilmente un licantropo. Ok. E tutti gli altri boh, gli altri boh, forse, ma forse no. Sai che il licantropo ha bisogno di essere colpito con l'argento, da quello che sai. Cioè, sai che l'argento gli fa male. Va bene. Sì, non, ma io sono un cazzo di monaco, quindi... Esatto. Lo prendo a pugni. Esatto. Bastone, colpo senza armi, vabbè. E uso il... Ah, quando, dopo che ho colpito posso decidere se usare il colpo stordente o no. Quindi, intanto vedo se colpisco. 17. Prendi. Okay. Con cosa lo stai colpendo? Bastone e pugno. Cioè, ho... Perché ho tre, ti ricordi, se faccio attacco completo ne ho tre. Quale dei è magico dei tre? Sono i pugni. I pugni. Ok. Quelli con cui hai colpito, eh? Ma in effetti, perché io ne faccio tre. Però mi spieghi come... No, come la intendi tu. Però, sì. Bastone... cioè, posso scegliere. Ma non lo usare il bastone, è stranato. Tira solo i pugni. Allora tiro... Sì, infatti adesso che sono... Che lui non lo sa. Io non so che questo. Beh, adesso che mi hai normale. Detto che... Sai che sei un nabbo, no? Se con conoscenze lo capisco. Sai che è un licantropo, non sai che il tuo coso magico gli fa danno e gli altri no. Quindi okay. Io direi allora... che fai l'attacco. No, però dico, normalmente non so se uso due volte il bastone, uno e il pugno, viceversa. Non l'ho mai specificato perché normalmente... Devi dire tu. Non lo so, non l'ho mai pensata neanche perché fanno gli stessi danni. Quindi in realtà mi è tiro un dado per i miei gusti miei indifferenti, quindi se vuoi posso direi farci. Che normalmente usi due volte il bastone e una volta il pugno. Va bene, non lo so. Vai, questo è il bastone, vai. Sì, ha colpito. Sì. Quindi uso colpo stordente, cioè lui deve fare costituzione CD14, altrimenti è stordito fino al mio prossimo turno. E in più faccio i danni, ovviamente. Aspetta però, è un bastone, sì, vai. E i danni sono 8. Cosa devi fare di costruzione? 14. Allora. Va bene, direi che è stordito. Okay. È stordito fino al mio prossimo turno. Ok, cosa vuol dire stordito? Non me lo ricordo, perché non è mai andato a segno. Dov'è? Guardarci intanto che vado avanti con gli attacchi, così ti dico i danni. Sì. Che bel mostro da fare solo un... Allora, secondo col bastone... Credevo non dovessi mai. Secondo col bastone, 14. Prendi. Faccio colpo normale. Beh, se poi scusa, stordito. Sono adesso. Altri 6 danni. Teoria a vantaggio colpire, no? E poi col pugno. Sì. Capito, Sheo? Se l'hai 16. Stordito, hai vantaggio colpire. Immagino. Ah, non lo so. Immagino. Vabbè, ma tanto ho colpito sempre. Comunque può essere. Ma col secondo danno puoi fare un crittazzo. Esatto. Hai ragione. Ho vantaggio. Il Max è schifoso. Perché effettivamente. Non so, beh, ragazzi, me lo ricordo tu cosa vuol dire. Non lo ricordo, non mi è mai successo che colpisce. Incapacitato, non può muovere, sparlare. Fallisce i tiri salvezza e destrezza. Hai vantaggio, vai. Ok, quindi posso ritirare solo un secondo dado per quello di prima, perché effettivamente può crittare, come dice Katta. Can't move, non, però può attaccare. Non c'è scritto che non può attaccare. Mi piace. Ok. l'ultimo col pugno, quindi con vantaggio. Vabbè, 19 più 7 e questi pugno. Solo 5 danni, però magici. Sì. E non posso muovermi, direi, ho fatto troppe cose. No, beh, posso fare. Non so, è il tuo personaggio. Sì, faccio come ha fatto lui. O siamo già addossati in realtà, perché mi hanno. Allora, domanda loro. Tecnica. Secondo voi il fatto che dica che è una cosa che non si può muovere? No, sì, non può non fare azioni di movimento. Può attaccare però. Sì. Fico, mi piace. La condizione no, non può incapacitato, quindi non può fare azioni e reazioni. Sei incapacitato. Ah, no, è incapacitato, dice. Quindi non può. Ma fare è stand quello che lo fa. È una casa di brutto. È stand? Ok. Sì. È incapacitato. Dice, una creatura stonata è incapacitata. Sì, se vuoi puoi anche disegnare. Sì, non so se si è sentito quello che ha detto che mi ha cazzato. Vai, sì, sì, vai. Ok, allora sì, faccio quello che ha fatto lui, in sostanza. Ma non so se siamo già in realtà addossati alla parete. Perché ti addossi alla parete. Sono loro che hanno attaccato me. Sì. Insomma, io mi voglio non allontanare di qualche passo. Va bene, va bene. Ok, sta a Eric. Loro ci hanno fatto meno di me addirittura. Cioè, attacco il cinghiale di Kat. Visto che è in corpo a corpo. Cosa lì. Va? No. 17 più 7, 24 colpire. Sì. Allora. Con cosa lo sei attaccato? Ovviamente. Ho solo quella. Ovviamente. Io ho solo quella. Vai, vai, imbarazzo, vai. Allora, 4, 7, ma ti hai fatto malissimo, 8, 8, 12, 16. Ho fatto anche pochi di danni. Ok. Coltivo. Sì. Poi? Con carta in corpo. Perché a parte che poi con la mia azione cosa là? Con la mia azione disingaggio, con la bonus mi allontano verso la parete. D'accordo. Siamo tutti lì. Va bene. L'orso a questo punto avanza verso di voi, visto che siete tutti lì addossati. Cioè tipo le esecuzioni, ci siamo messi in fila. Va bene. Vede questo piccolo bocconcino. Eccola. Perché non provare ad assaggiarlo? 15. Ti prende. Sì. Ma però. Lo so. C'è il dorso, chi sei? Chi è che mi aveva attaccato? Il lupo che mi ha morso 20 danni che mi ha passato la licantropia e così fai un bel di salvezza sulla costituzione. Svantaggio? Costituzione no. No. Un piccolo orso alfi. Bellissimo. Alfi, alzo orso. Ok ragazzi, ancora 3 morsi e cambiamo un attimo l'avventura. Poi già che c'è qui... Dove lo devo segnare? Si perché non sparare un coso a quel monaco? Quanto è di classe armatura? 17, ma l'obiettivo esattamente è uccidermi. Manca. Cos'è maledizione? È licantropia. Ma chi è che sta agendo adesso? L'orso. Ora sta a Philip. Spamma tutto sull'orso di merda. Aspetta, io non ti ho fatto il tiro natura roba aria, però faccio adesso. Vabbè che avevo solo quell'arma, sì, però. Qualcuno mi dice è più sensibile alle armi d'argento. Il lupo è un lupo, non lo so niente. Gli altri boh. Ok. Boh, io lo so che è sensibile alle armi d'argento. Io penso che sia un cinghiale umanoide, sì, un orso umanoide e un lupo umanoide. Vabbè, lupo sì, gli altri boh, è il dubbio. Io lo posso aver detto il lupo è sensibile alle armi d'argento. Nessuno per ora, se, per ora lo avete nessuno detto a niente a nessuno. Perché io non lo so, cioè non so, dipende. Va fine. Io non so neanche che il lupo è una freccia sull'orso. Dipende per cultura se mia. Se nessuno dice nulla, ognuno sa il suo. Filip, spari. Io sul col poderoso sull'orso. Se ne ha tutti i punti, vero? Riferita. Sono 18, 23. Ok, stai tirando con freccia? Normale. Ok. 23 colpi. Poi ne faccio un altro. Sì. 19. Sempre normale? Sempre normale, sì. Vai. E col primo faccio anche un distracting strike. Vai. Quindi tiro già tutti i danni, sono 3 di 8 più 20, quindi sono 28 danni. Ok. Poi uso action surge e gli faccio altri tiro altre due frecce. Ok, aspetta un attimo, prima di fare il surge fammi un perception. Perception Bumble. Ok. Questi tiri sono buoni come puoi sempre. Vai. Anzi, migliori, oh, insisti. Prenderà danni dimezzati. Allora questo tiro qua fa merda perché faccio 10. Ok. 10? E col 10 colpisce. Ah, e allora al secondo ho fatto 20, quindi colpisco anche al secondo, quindi sono altri 2 di 8, 23 danni. Dipenderà da quale. Tutti con le frecce normali, giusto? Sì. Ok. Prossimo che attacca l'orso, si ricordi che taglia. L'ultimo attacco ha il vantaggio. Ah, vantaggio. Ok, il lupo è stunnato, il cinghiale è arrabbiato. Lui avrebbe... Ah no, sì. Ragazzi, ho fatto comunque un botto di danni. Cinghiale arrabbiato su K. Classe armatura di K 19. Ok. Un gruppo di amici di amici mi ha chiesto se volevo giocare. Ti manca. Quindi tra pubblici possiamo rivedere un po' le regole minchie. Veramente. Sta a Arian. Bellissima. Io ti dico. Io. Quake ti dico. È il momento di mettere l'anello. Hai presente che hai un anello di platino? Hai un cazzo di anello di platino? Quelli che vi eravate incantati a vicenda per fare... Sì, fratellini. Esatto. Che sarebbero una cosa sola per un mio incantesimo. Che carino. È un giuramento per la vita, cazzo. Esatto. Si chiama matrimonio. Non c'è più. Anzi, se lo clicco mi teleporto da loro. Sì, esatto. Potresti tenertelo sempre addosso, effettivamente. Quindi? Però in effetti neanche io ce l'ho addosso. Tolgo l'anello dalla tasca e mi metto l'anello. E poi cazzo. Ti piace il spettacolo. Ti piace il spettacolo il tuo nome. Il? Sì. Casto guarding bond. È livello 40. Per un'ora, fin tanto che Kata è a 60 piedi da me, ha più uno alla classe armatura, ai tiri salvezza e a resistenza a tutti i tipi di danni. E tutte le volte che prende danni io prendo la stessa quantità. Quindi aspetti a castarlo, cioè lo prepari quando lui si mette l'anello. Okay. Però tu prendi lo mandi. Cioè, lui ha resistenza perché io ne prendo la metà. Va bene. Però io mi posso curare semplicemente. Anche l'altra punta. Va bene. Sir Quakert, chi di voi va quindi? Vai, vai. Quake. Vado. Vuoi spaccare così? Sì. Vai sull'orso che tanto il dopo aver visto i suoi fallimentari tentativi di attaccarmi l'anello Mettiti l'anello. Aspetta che si squadra. Ecco l'anello. Si squadra. Sarebbe che lavoro. Gli dico scusa una. Sì, moglie, sì. Ok. E poi riprendo a menarlo sempre avendo vantaggio. Questo vale come movimento, direi. Non so. È un'azione gratuita l'interazione con un oggetto. Power play è gratuita. Vai, Stigio, ti metti in anello. Dipende dove ce l'ha. Sempre 23 per colpire. Ce l'ha nello zaino. Ok, se ce l'hai, però ce l'ha un sì, esatto. Dipende dove 14 danni. Ma sai, è un anello fatto apposta perché tu lo possa mettere 14 in battaglia. Sì, sì, se lo sa. Ma in teoria è ancora vivo? Sempre. Sì, sì, ma ne sto dicendo mila, ma mi stai detto. Bello, avete incantato due anelli e poi... bella idea! E poi lo mettete via, ma è geniale. Faccio anche il secondo attacco. Infatti magari dopo gli dico, beh, dai, vai. Possiamo tenercelo lì, ma la prossima non sai mai. E serve l'anello, quindi per questi caricatori. 21 per colpire. Quindi poi, assolutamente, l'anello lo fai con me. È incantato l'anello, quindi. No, è che ci vogliono due anelli di platino. Ah, ok. Quindi 10 danni. Non so anche anelli. Sì. È che mi servono due anelli di platino. Poi? Sono a posto. Ok. Io... Serro. Quindi... Posso fare un conoscenze per capire gli altri due. Io sono sul lupo. No, tu l'hai già fatta la conoscenza. Ora c'hai... Ah, valeva per tutti. Ora c'hai contro l'orso enorme. E il lupo? No, il lupo è fermo lì. Vabbè, mi colpisco... L'orso? Hai vantaggio. Ho vantaggio? Sì, te lo dà Philip. Che è sconsolato l'idea che sia tu ad averlo. Sì. Grazie. Come speravo non ce l'avesse l'altro. Anche perché lo sta per colpire col bastone. Ah! Vabbè, però se lo stordisco magari... Ma solo uno, cioè il primo che è? O tutti sì, il primo attacco. Ah... Ventello? Ventello. Vai, devi fare... Col bastone. Oh. Nice. Prova a fare di nuovo colpo stordente, 15 di 14. Uguale a una sacca costituzione, ma... 14 passa. Immagino che sulla costituzione l'orso ce la posso fare. Passa. Quindi poco, aspetta che mi segno che l'ho usato. Quindi io divento enorme adesso. Piccolo lucertino. E niente, quindi un di 6. Vabbè, la nostra compagnia ha un boost. Il bonus non era doppio. Direi. Vero. Per il critico aggiungiamo cose alla trama solo... quindi ma io non mi voglio far curare, piuttosto si muoio, ma sei danni. 6 danni di bastone. Sì. Molto bene. Poi... hai fatto tutto questo casino, hai fatto 6 danni. Sì, esatto, e non l'ho stordito. Mezzani, esatto, e non l'ho stordito ed era un critico. E... scusa, quanto aggiungi di estrezza? Quanto aggiungi di estrezza? In che senso? Non dei danni. No, ma tanto non raddoppiano quelli, Ho fatto uno col dado. Quindi diventa 2 più 4, 6. Vabbè. Dai, ma tira due dadi. Tiro due dadi. Tiro due dadi. Vabbè, vabbè, ma è uguale. Oh, ne ha raddoppiato. È uguale, faccio sempre uno. Ah, va bene. Raddoppiare, raddoppia. Basta. Ah, sono 7. Dai, secondo attacco con no, sempre, no, prima avevo deciso di raddoppiare il numero venuto col dado. Avete secondo, detto tira un altro dado, ha fatto sempre uno. Secondo attacco merda. Col bastone. Vedi che la mia teoria è che lo scrigno parte sfiga. 15. Prende. E posso provare più di una volta il colpo stando sul futuro? Sì. No, sai te, sì, sì, cioè lo devo dirvelo poi io. Sì. Ma riprovo il colpo stordente. Non lo so, faglio fare mica cosa. Ma ci sarà scritto. Sì. Lo puoi fare ogni volta, sì. Sei sicuro? Lo so, Benzo, oltre a prendere l'ignata, l'unica cosa che fa, fagliela fare. Benzo si sta arrabbiando. È un po' strano che siamo sopra tutti i colpi. Sì. Può essere il spazio. Sarà una per tua. Scusa, devi usare il chi, quella roba lì, per fare ste robe. Chi? Ne ho fino a 6 punti. Ah, vabbè. Allora sì. Chi? Chi ne ha? Sì, beh, tutte le volte. Quello è un punto. Stanno di strano. Dicevo, quando colpisco posso spendere. Quando colpisco posso spendere un turno per farlo. Non dice un turno, tipo per spendere un chi? Sì, tutte le volte che colpisce puoi spendere un chi. Ok, quindi chi li può usare quante vuole a turno? Chi? Chi? Sì. Vai. Chi 14 sulla costituzione. Fallisce. Quindi è stordito fino a... L'ho stordito! Oh, scusa, sei inutile. Domanda, se è stordito fino al tuo turno, non perde il turno dopo, semplicemente agisce quando dopo aver fatto te. Sì, dopo, sì no, se non lo ristordisce, sì. Cioè, lui perde certo questo che turno. Perde il turno. Questo che? Turno. Perché cioè, ha l'iniziativa dopo di te, il prossimo. Se ha l'iniziativa dopo di me, perde questo turno. No, non ha senso. Allora, nel senso, voglio il turno lo perde, se no che senso ha di stordirlo? No, io voglio capire se perde il turno, quello successivo... No, successivo no. Finché non tocca di nuovo a me, è stordito. Però, per esempio, il lupo aveva l'iniziativa maggiore di te. Finché non sta te... Non adesso si è ripreso. Ah, adesso si ripiglia, cioè non perde il turno, può agire adesso. No, no. Ha perso quello di prima. Certo. Quindi quello se prima... l'iniziativa più bassa non lo perde. Che senso? No, ne perde, perde quello... ne perde sempre uno. Ne perde sempre perché uno. Prima dipende... attaccato. Cioè, ah, quando okay, ritocca lui. Quando ritocca sì, perché quando fino alla fine del turno del Monaco, ne perde solo uno. Comunque di nuovo 5. Presume che il Monaco l'abbia usato. Anni dimezzati. Vabbè, dico di Bezzacchi chi l'ha detto. Vabbè, 5 danni. O nulli. E poi l'ultimo. Ah, scusate. E poi l'ultimo col pugno invece. 18, quindi prende. Infatti, infatti, no, 7. Infatti non lo volevo dire, ma ho fatto un sacco di danni. Frecce normali sono nulli. 7 danni, giusto? Non so nemmeno. Cioè, io gli faccio tipo 27 danni. Abbiamo perception. Sono nulli. Abbiamo perception con svantaggio. No, non hanno immunità. No, non credo abbia in confronto, in confronto io tiro la magista. 14. È rarissimo. Ti sembra che quando colpisci punta. Col bastone tu non gli faccia un cazzo. Ok. Uno dei tre mi sa che sono almeno. E... tocca a me. Sì. Ah, oh, finalmente. E... cinghiale. Attaccato lui prima. Sì, uccidiamo sto cazzo di cinghiale. Gli altri due sono storditi, quindi, ricordate, potete approfittarne. Sì, no, okay, sì. Poi, no, sì. 23. No, il lupo lo pira. Sì. Ma tu vai più alti magari. 6, 8, 14, 21, 26, 30. Boh. Questo è un buon tiro, cavolo. Sì. Poi? E allora mi ero riavvicinato lì, se c'è il lupo che si è ripreso disingaggio da lui e mi allontano di nuovo parete. Non ti devi disingaggiare, ti no infatti, però vabbè, comunque ti sei, mosso, bonus. Ti sei mosso su, hai attaccato, ti puoi sì, rimuovi verso, la... verso la parete dove sono gli altri e non di fianco all'orso magari direi un altro E no. Nel, allora siamo saliti. Ti vuoi allontanare davanti da... sul lato della parete sinistra? Guardando sul lato dove... dove non c'è, dove non c'è nessuno. Sì. Su, diciamo, più lontano sì. Possibile. Va bene. Va bene, Filip, sta a te. Di nuovo. Ok. Va bene. E il lupo manara è fermo, no? No, si è ripreso. Adesso. Si è ripreso. Ah, si è ripreso. Allora gli tiro, gli sparo due frecce d'argento. Vai. Allora, la prima faccio 9 più 5, 14. Sì. E la seconda 5, 5, 10. A colpire, mi dici? Sì. Ma com'è? Sono la basso? Seconda... Hai fatto 10, la seconda non colpisce. Cosa faccio basso? La seconda non colpisce. Perché siamo immunità, ha un senso. Perché... prima colpisce, sono... l'altra. Già li colpisce poco, faccio distratti e strike sulla, sulla freccia che colpisce, pochi, che è quello di prima, quindi sono 2 di 8, quindi 5, sono 15 danni e chi attacca la prossima volta ha vantaggio. Quindi ne hai fatto scusa quanti danni? 15. Ok. E poi, gli dai e poi mi sposto dove sì. È Eric. E che cazzo, vaffanculo. Ok. Va bene. E il lupo... Sì? Il lupo si sente in maniera poderosa, non so se vuoi passare leggermente. No. Il... no. Voglio la polizia in casa. Il lupo a questo punto avanza verso di voi. Su chi ha fatto la cosa del vantaggio che la voglio sfruttare? Il lupo. Ottimo. Avanza verso È il lupo Filip. Che ha vantaggio però stavolta. Occhio perché tra poco anch'io sarò lupo. Stai attento. La tua classe armatura, Filip? 16. Ti colpisce... con il morso... ti fa... 6 danni... mi fai un tiro salvezza. Mi fai un tiro salvezza sulla costituzione. Oh. Quanto ha fatto? Raga, io ho un più 6, però adesso vediamo. Forse è anche un più 2 addizionale. No, no, sono lontanissimo. Comunque ho fatto 17 più 6. Se no, mi hai infettato così. No, non ti hai infettato. No, dai, non c'è il lucky da parte del master. Lo il devi secondo ritirare. Attacco non ti becca. E va bene, sta Arian. L'uno dei tiri di salvezza è fallimento qua nella quinta. Il tiro salvezza della quinta, l'uno è fallimento automatico. Tiro salvezza, direi di sì, all'interno. Ok, no, no, no, tiro salvezza. E faccio spiriti guardiani. Quindi puoi sempre sì. fare uno. In pratica, in un raggio di 15 piedi da me. Sì. Eh no, di tiro salvezza mi sa che uno è fallimento, no? Vabbè. Che fluttuano. Sì, no, ma io un po' più 6. Da bottone. Eh no, ma uno non è fallimento automatico. No, è semplicemente la lista. Uno del dado, non è fallimento automatico. Sì, sì, sì. Puoi però, sempre fare uno. Anche due probabilmente sarebbe fallimento. Vabbè, cioè, se sono buone o neutrale, appaiono le forme spettrali angeliche. Ma tu sono sei fatate, catta. Neutrale. Sì. È per fatto? Te però questa, pensavo... guarda il gruppo. Aspetta, fermi ragazzi, adesso pensavo che... Giulio ci descrive il suo incantesimo. Che apparisci. Okay. Allora. Quello che vuoi tu. Me ne vado. No, no, è per la mia immagine che sono andato. È bellissimo. Va bene. Allora, prima ti descrivo cosa fa l'incantesimo, poi descrivo l'incantesimo. Sì. Allora, vai qua. Vabbè, evoco questi spiriti guardiani. Sì. E posso scegliere un numero di creature che posso vedere perché non siano affette dall'incantesimo. Io sono un numero, qualsiasi numero. E invece una creatura che non è immune, cioè nel senso che io non dico che non voglio posso che su cui abbia effetto. Dai. Quando dai. Entra nella, cioè ha la velocità dimezzata nell'aria. Sì. E quando ci entra o quando c'è, deve fare un tiro salvezza sulla volontà e se lo fallisce prendere 3 di 8 danni radianti o necrotici a mia scelta. Ok, quindi che area fai, ho capito? Qui è un raggio dei 15 piedi da me. Da te, 15 piedi, che sono 3 metri. Questo è il momento in cui Giulio faccio le poi se ne stavo pensando la stessa cosa. È arrivato il momento in cui ci uccido. No, cioè a meno che io non dica non... cioè se qualcuno entra in quell'area si becca sì. Ok, a meno che io non sia una delle creature che io, a cui io non voglio che l'incantesimo affligga. Okay. In questo caso scelgo che non affligga i miei compagni. Puoi scegliere quante ne vuoi. Sì, quali sono i tuoi compagni? I tuoi compagni però sono solo. Sono i mannari. Ecco. Beh, quindi la... che te siamo chi salvi. Chi ha la licantropia? No. Avete capito? Chi è in forma di licantropia? Chi vuol capire? Capisca. Beh, qui appunto c'è scritto che in teoria appaiono o degli spettri in forma angelica o demoniaca, ma se tu me lo passi sì. Apparirebbero tipo delle forme spettrali a modi giganti delle tempeste. Va bene. Sì. E con tuoni e fulmini. Ma non siamo in un posto piccolo. Ma sono forme spettrali, magari okay. È solo il busto, no, è solo... Più che altro se nel raggio di 4 metri e mezzo, ce ne saranno presumo un paio per la grandezza. Sì, sì, sì. No, ma tanto sta, tu puoi fare come vuoi. Sì. Cioè può anche essere solo uno dietro di no, me. Va bene, va benissimo. Sono disposti come gli sponi di Windows, quindi c'è tipo una spalla. Sì. Sono pixelati. Va bene, poi? No, finisce così. Cioè, quando una creatura... Quando si vogliono muovere, si muovono a metà della velocità. Come se fossero entrati. Sì. Ok. E quando entrano nell'area per la prima volta, oppure iniziano il turno dentro l'area, devono fare un tiro di salvezza sulla volontà. D'accordo. Quindi scegli tu se quando iniziano loro lo fanno tutti adesso. Tu sei dall'inizio del turno, giusto? Io sono dall'inizio del turno. D'accordo. Quindi sei distaccato rispetto a loro. Mi sa un po' sì. Ok. E Quakert. Ma io sono il primo che si è mosso. Oh. Siete voi che siete mossi in un'altra direzione. E poi ci siamo. Il cinghiale è stato sconfitto. Vabbè, non ci si applica adesso. cinghiale è morto. Il cinghiale è morto. Il lupo è su. Ci sono. Allora, la situazione è questa: c'è Giulio vicino all'entrata del tunnel. Tu sei, diciamo, all'altezza più o meno del falò. E con il cinghiale ai tuoi piedi, più staccato su verso la parete laterale ci sono Eric e Philip attaccati, aspetta, con il lupo addosso. Quindi Kattas è lì vicino a vantaggio sui tiri volontà perché dice ce la falò. E dall'altra parete invece c'è stiamo fare sempre con sessioni come quella della volta scorsa, non so. Dove non parlo. Ok, avvilito. Bisogna avvilirlo. Dalla parete invece c'è rimasto Sirron con l'orso stordito. Con l'orso stordito. Ok, però tu lo vado sai, sull'orso stordito. Beh, si vede. Vedi un orso di spalle, scemo. Ah, cazzo, vede gli uccellini attorno? Sì, non lo so. Certo, c'è scritto. Mannarico, eh? Mannarico. Esatto. Il cerchietto sulla testa. Sì, certo. Allora, te sappiamo come funziona. Vai. Ho B-internet anche qua. Vai, ho B-internet. Lancio il marchio del cacciatore. Il marchio del cacciatore al cacciatore. Vai. Esatto. Quindi vale di più, quindi. No. E quindi essendo stunnato attacco con vantaggio. Vai. Ma entri nell'area di Giulio, prendi la velocità dimezzata, danni. Faccio 10 col primo attacco. Sì. E sull'orso? Mancato. E ti sei col secondo. Mancato. Dovrei dovuto farlo. No, ho preso, dai. Otto danni. Otto danni. Non smaiti mai. Tutto questo casino, lui non lo dice. Tutto questo casino. No, ma lui potrebbe fare una vangata di danni, ma non lo fa. Poi finisco gli incantesimi, quello è il problema. Sirron cerca di picchiare di nuovo il lupaccio che è l'orso che in questo momento quindi si riprende. Sì. No, alla fine del tuo turno. Quindi ancora stunnato. Ok. O all'inizio del tuo turno, non ho capito. Quando. Non lo so. Possiamo sapere come funziona. No, lo deve sapere lui. Perché se secondo me è l'inizio. Quando ritocca di nuovo me, lui si riprende. Ma sappi le cose del tuo personaggio. Mi ricordo, voglio partecipare a un'altra campagna di 12 campagne. Lo trovavo indifferente all'inizio alla fine. Voglio fare la 3.7, la 4.2. Che cosa cambia? E la 5,3. No, dice fino alla fine del tuo prossimo turno. E cosa cambia? Alla fine del tuo turno. Cambia tutto, perché se all'inizio del tuo turno non è stornato, visto che alla fine è stornato, cambia tutto. Quindi ho vantaggio. Quindi cambia tutto. Hai ragione. Sì, beh, infatti è quello non che... Però non lo devi sapere Giulio, però... devi sapere tu. Quindi non posso provare a stordire un altro turno, no, essendo già stordito. Questo non ha senso. Non sei perché... pensato per questo. Quindi ho capito che il bastone è inutile, lo lascio cadere a terra e lo picchio. Hai capito, sì, probabilmente. Non ti fa. Sì. È morto. 15? Sì. 10? 10 danni? Sì. Tondi. Sì. Il secondo 18, sì, e sono altri 10 danni. Sì. 18 più 7. Però dovremmo cercare di catturarne qualcuno vivo. E sono 5. 5 danni. 25. Quando mai ho fatto questi male. Problemi? Molto bene. Sono fatti soli l'altra volta con se posso fare qualcosa, ma direi. Dovremmo catturarlo io. Lupo. Vai. Quello che ho vicino. Che cazzo. Bellissimo. 9. Manca. Vado a puttane. Dai. Io ho fatto 25 danni magici in un turno, quindi non dire che non ho fatto niente a sto giro. Niente, io lascio cadere i magici, lascio cadere l'arco e prendo i scimitarre. Orso arrabbiato. Ah no, Las. Dimmi. Hai vantaggio. L'avevi fatto, no, l'avevo usato Katta. Katta ha attaccato l'orso. No, Katta ha attaccato l'orso. L'avevi fatto di nuovo? Sì. Allora vai, tira, un secondo. Si può fare? Era sì. Fare. No, è vero. 17 preso. Grande. Allora, 10, 16, 19, 22. Morto. L'orso è morto? No, è lungo. Lungo. Orso arrabbiato. Monaco fortunato. No, voglio il morso anche dell'orso. Ne becchi solo una. Oh, però ti becca con l'ascia. Aia. Minchia, era meglio il morso, forse, non lo so. Che dado ho preso, che dado ho preso? Un dado da 40. 14 danni. Pensavo fare. Quanto vado? 7? 7, sì. Ah, ok. Ha iniziato che era 29. Vabbè, perché... va bene, allora dovrebbe essere facile. Filip, non becca il sogno. Allora non è il momento di scimitarre, ma tiro altre due frecce al tizio. No? Orso? Vai. E la prima faccio 12 e 5, 17. Frecce normali, giusto? Sì. E la seconda 23. Ok, prendo entrambe. E... sono 34 danni. Ok. Poi? Basta. Bene. 34 danni. Io mi avvicino in modo che l'incantesimo arrivi sull'orso. Sì. E basta. Deve fare un turno, al suo turno fa il tiro. Scegli tu se è mio o tuo. Va bene. Cioè, uguale. Beh, quando entra in area, se lui si avvicina, sì, vuol dire cosa deve fare. Tiro salvezza? CD 16, 15 sulla saggezza. 15 saggezza, passa. Ok, quindi a metà dei danni. Qualcuno è entrato nell'area, no? Esatto. Ci becca dei danni. Chi si becca dei danni, diglielo. Vabbè, tira salvezza prima. Abbi il coraggio delle tue azioni. Sembra maledetto. Quindi 7 danni radianti. 7 danni. Qui, sta a te. Ok. Come è messo? Sembra abbastanza in forma. La freccia che gli esce qua. Ma quello che non è stato più colpito dopo? No. Cazzo, io ho sprecato un sacco di incantesimi, potevo lasciarmi una morte. Potevi fare danni. Altro non tolgono una sega, quindi c'è proprio. Beh, insomma, all'inizio avevano tolto 24 qui. Dettagli. Era 53 di vita, 24. Perché aveva caricato, aveva dei danni in più, cinghiale, quando caricava. Va bene, allora... Hai detto che sta bene, non ha segni di ferite, non è scosso. L'orso? No, sì, è ferito però. Non ha segni di ferita, tipo frecce ovunque. Ha un sacco di frecce addosso, però non sembra soffrire troppo da quelle frecce. È quello il punto. Non è più stordito, giusto? Secondo me dovrebbe fare al suo turno. Non sembra soffrire troppo, sta a 100 danni di due sulle prima. È lo stesso, è lui che entra o che lui inizia. Vabbè, il turno. Va bene, allora faccio un normalissimo attacco. Tanto per dire, non è che puoi subire due volte nello stesso turno. No, infatti però deve subire, secondo me, nel momento in cui tu ti avvicini. 12. Anche dopo dice quando inizia nell'aria. Quando lui è nell'aria e inizia il suo turno. Sì, preso. Preso? Sì. Anche l'orso. 12. C'è anche lui. Doccia. Ben 11 danni. Sì. No, scusa, 10. 10 danni. Sì. E poi vado col secondo attacco. Sì. 22 per colpire. Sì. E 14 danni. D'accordo. Morto. Va bene. Qui è Sirron. Continua a picchiarlo. E... intanto due turni non ci hanno attaccato perché erano storditi. Ciu ciu ciu. E io sarei morto se no questo. No, ti hanno attaccato solo. No, arriva l'altro. No. No, ma il coso stordente è tanta roba. 9. No. E dimmi che... No, non è 10. Oh, ha fatto... Ha fatto un sacco di 13, danni, show. Provo lo stordente, adesso 14. Passa. Passa? Sì. Ok, avevo una matita qua. Ecco. E chi? Gli faccio solo 7 danni. Oh, mancato due roll. Sta com'è? Sta a Eric. 16 più 7 per colpire. Sì. Allora, 5, 12, 18, 21, 27, 31. Danni? Sì. Fa tutti fuori. Va bene, sta lui. Allora, c'è un piccolo. Eccala. Sapevo che dovevo muovere. C'è il monaco che gli dà fastidio, lo vuole segare. Il monaco ha 7 punti feriti. Eh già. Vediamo se riesce a tirare. Arriva. Vediamo se riesce a buttarlo giù. Allora, direi che gli fa 11 e lo butta giù. Poi. Prende, sempre con l'ascia. Lascia andare. E gli fa 8 danni. Sono sicuro solo 8. Solo 8 purtroppo. Purtroppo. Niente critico. Sta a Philip. Ritirerò altre due prese. Okay, sì. Nessuno che dica frecce d'argento. Io non lo so, Sala, non lo so. Io per me non sono normale, non so neanche cos'è un mandato. Allora, in realtà sull'orso non lo sa nessuno, perché l'aveva saputo solo del lupo, anche noi. Il primo tiro ha fatto 10. No. Il secondo ha fatto 12. Sì. Ah, sono 16 danni. Normale, giusto? Sì. Molto bene. Molto bene. Poi sta Eric. Ah no, ma io sono un cane. Wow. E poi dite a me. No, sono 21 danni. Ma Cristo, io prima gli ho fatto 50 danni in meno praticamente. Beh, sempre di difesa normale? Sì, perché è dal primo attacco che non metto la destrezza. Ah, vabbè. Quindi sono 5 danni ogni attacco. Va bene. Vabbè, vai. Dal prossimo. Eric. No, questo è 21 comunque. Va bene. Va bene. No, fa piacere. Adesso, adesso lo fa quando inizia l'ultima salvezza. Ah, il puro l'ha fatto da dentro. Tutto adesso. Ok. Fallisce. Che schifo. 11 danni radianti. Va bene. Va niente. Bene. Resto lì. Quakert. Resto lì. Allora. È ancora con la lancia così. Come sì, l'altro personaggio è abbastanza faticato ora. Oh, bene. Vai. Primo attacco. Sì. 9. Fallito. Sto andando fortissimo stasera. Secondo. 9. Fallito. Passo. Passo. Sì, passo. Che è uno. Sì, sì, ragazzi, si era una terra. By the way. Il primo l'ho fallito. So che ormai è diventato la commodity. Ah, è sotto. Sì. Ma va? Chierico? No, com'è a terra? Io pensavo che fosse a terra, nel senso buttato a terra. Io non lo sapevo. Non l'avevo sentito. Oh, no, io l'ho sentito, ma pensavo che l'avesse buttato a terra. Non ma che normalità, che cosa cambia in fondo? Riga. Pensavo fosse terra perché di preso 11. Lo stiamo, lo stiamo. O magari sgonfio. Preso. Oh, si prende anche con 11. Allora, 4, 8, 12, 15, 20, 24. E lo sega ancora lui. Yeah. Ok, io mi avvicino. L'orso sbanda. E cade su Shiro. No. E cade, sta per cadere proprio su Sirron. Vabbè, io non lo reggo l'orso. Cade su Sirron. Io mi avvicino a Sirron, gli tolgo l'orso, provo a togliere l'orso. No. No, è che immagino che l'orso gli copra... Siete fuori dall'iniziativa, cosa fate? Io perquisisco i corpi, sopravvivo. Va bene, allora. Io mi avvicino. Devi provare a togliere l'orso. Io dico ai miei compagni che sono dei cani, perché... No. orso, non cane. È tipo due ore che 21. Non faccio danno. 21, togli l'orso. Cioè, vedete sapere. Che io prendo l'orso e lo lancio da... No, vabbè, riesci a toglierlo. Ma 24, non 21. Riesci a toglierlo. Quindi nel frattempo però mi fa un tiro salvezza, Sirro. Tiro di Sirro. Sirro. Lo so, scusami, stavo rispondendo. Ah. 12. A meno che qualcuno non prova a curarlo, ovviamente. E io adesso tolto l'orso. Sì. Vedo che gli altri sono interessati della cosa. Va bene, ragazzi. Curato. Comunque, disapprovazione a tutti i membri della del mio gruppo per non avermi detto che non ne ho fatto danni. E al master per non avermi dato il punto di ispirazione per aver speso tutto quello che ho pur non facendogli danno. Sono molto contento di te. Verrai premiato, non posso darti l'inspiration per questo. Non sai ancora che non hai fatto danno comunque. Però verrai avrai un tuo premio. Ma l'orso sono in credito con te. Quindi l'orso era completamente in vale di più normale. Che l'inspiration. Ah, tanto l'inspiration non la usate. L'orso era normale o mangiare normale? Come? No, immuni. Tutti immuni? Tutti erano immuni a tutti i danni non vedi, tutti immuni. Sì, è per quello che dico, è stato inutile tutto. Compresi i magici, quindi io... Magici li prendo per forza. Beh, tu puoi però fallivi, quindi... Sì, esatto. È vero. Tutti i danni di arma che non era un'arma argentata, non li subivano. Cioè, praticamente, la morale della favola è che io in due ore che uso l'abilità, uso i danni, uso le action surge, tutte le minchiate, ma non faccio mai un cazzo. Esatto. Esattamente. Però hai giocato molto bene, bravo. Ma che ti poteva dire che stavi sbagliando? Non come power player qua attorno, infatti... Tu gatta, devi stare solo zitto! Ma io ho solo quella, quindi... Non ho notato nessuna differenza power rispetto player. A quello che faccio normalmente. Bisogna partire prevenuti. No, vabbè, ma tranquilli, tanto nel mio mondo c'è sempre un rito. Io... Adesso che avete questa arma d'argento, ma arriveranno tutti le rotture di coglioni. Io ho tolto di dosso l'orso a Sirron. Beh, ho anche gli prendo lo scrigno. Sì. Sì. Quanto attendi prima di curarlo, voglio sapere. No, appena metto via lo scrigno, lo stabilizzo. No, faccio un altro medicina, però. Sì, fammi un medicina, dai. Perché curarlo? Ah, no, forse li hai finiti. No. Fai un fumble. No, quasi 13, 16. Sembra che questa vena. Non capisco, il coltello entra bene, ma. 16. Sì. Sono stabilizzato come ormai. Ma zero. E poi gli do una gran pack. Basta. Sei stabile. Fine. Ah ok, perfetto, il chierico buono, questa volta faccio un personaggio diverso. Ok. Ti ho stabilizzato. Ma insomma, sta malattia come la gestiamo? Non lo so, bisogna guardarci. Intanto sopravviviamo e poi intanto se sopravvivo. Allora, intanto tu cerchi, fammi un perception. O investigation. Un intimidation. No, puoi farmi un perception o investigation. Investigation. Vai. Un bel 8. Anche io stavo pensando che non vorrei fare tardissimo. No, infatti adesso chiudiamo. 8, trovi in giro e per i sui corpi una $75 indovinate chi vanno. Ho capito, siamo lì, cioè ti vediamo che le prendi, cazzo. Vabbè, adesso non mi dite nulla. E ci lo diciamo, sei un coglione. Li ho uccisi io. Sei zitto. Potrei persino dire qualcosa io morente a terra. Allora. Catta, ce l'avevi tu la cassa? Chi ce l'aveva? Dovrebbe essere lì nel quaderno verde. Ma le prende a pagine. Sto controllando. No, c'è l'equipaggiamento che viene così. No. Fammi un tiro di perception, Philip. Stai scherzando. Vai. 19. A meno che non sia questo. La prossima volta ti dirò. È questo? Ci devo pensare, adesso lo faccio con calma. La prossima volta. Non lo so, può essere, tu segnali qui. Prima di chiudere, invece ci guardiamo un attimo. E questa roba qua che non si capisce cosa c'è scritto? Dov'è secondo voi? La prima pagina, tipo subito dopo la copertina. Sì, potrebbe. Vabbè, scrivo 75 monete d'oro qui, poi vediamo. Disease, vediamo se ho disease. Scrivo tra parentesi di canto, così ci ricordiamo dove l'abbiamo preso. Ma non mi curi. Go in bed, badness. Allora, Catalolo. Vabbè, dai, ti curo io. No, mi basta un punto ferita, non chiedo troppo. Anche io almeno te devo dare un sacco di più. Scusami, ci sarà. Cosa vuol dire te ne devo dare un sacco di più? Scusa, non sono, è una postilla qua. Mi dispiace curarmi. Hai 8 punti feriti. Grazie. Ti dispiace curarmi? Un po' sì. Ricordati che non ho lo scrigno, Vez, mi devi dire dopo quanto mi accorgo che non ce l'ho. Ah, ti porta di nuovo in vita? Sì, sì, ho 8 punti feriti. Con svantaggio. Un svantaggio? Ma hai detto? 17 più 3, 19. Dove è 20. Mi avvicino a Giulio e dico lei. Con lo svantaggio? 17 avevo fatto. In questo, in questo e 19 l'altro. Oh, solo su queste cose fai l'italiano. Mi avvicino di nuovo a Giulio e dico l'hai preso tu di nuovo. Vabbè, ma questa cosa funziona. Ma neanche il cioccolatino. No, io lo ridò e ti guardo e dico, hai mai pensato che però ti stia portando sfortuna? Beh, insomma, diciamo che tutta la mia vita che lo penso. Aspetta che voglio vedere. Posso diventare un mezzo gigante con l'entropia? Comunque se vuoi conservarmelo tu, se ripeti io mi fido di te, non capisco perché continui a prenderlo. Curse of Lycanthropy. Sono dei test. Cosa vuol dire? A remove curse spell can rid the effect of Lycanthropy from the curse. Ma io non voglio toglierla. Cosa? No. Quello era più bello, scusa, perché non si è messo questo qui? Forse buono, questo la tigre volevi. Sì. Forse a livelli più alti. No, beh, potrebbe già. No, tu fai i soliti. Non l'ho sicuramente selezionato. Vabbè, certo. Allora. Android can be afflicted. Sì. Può resistere, cercare di resistere o accoglierlo. Resistendolo, licantropo. È quello che lo sceglie. Ma perché in realtà c'è anche la questione dell'allineamento. In effetti in realtà il sarebbe buono in realtà anche l'orso. Però non ha senso dal mio punto di vista, quindi no. No, no, è che stronzo che sei. Sì, ce l'ho il terzo livello. Cosa? Toglierlo? Rimuovi maledizione. Ah, eccolo, bello, sì, mi piace. Posso farlo su tutti quelli che hanno. No, io leggo. No. Tanto me lo vado a leggere a casa. No, abbiamo un punto in più in questa avventura. Va bene, ragazzi. Qualcuno di voi voleva chiedermi qualcosa? Posso leggerlo? No. Da dire qualcosa? Direi di... Sì, posso recuperare le frecce metà che ho sparato? Assolutamente sì. Assolutamente no. Assolutamente. E le trovi d'argento? Non lo so, io tentavo di parlare con lui per capire perché ogni volta con questo giochetto con lo scrigno ogni volta solo quando muoio, quindi ogni volta. Quante volte vai giù Tescio a sessione? Tipo capito, mi hai tirato in faccia una palla di pietra di 3 metri di diametro. Sai quanti danni ho subito io? Anche gli altri in realtà. Il tank è andato in prima fila. In realtà tutti l'ho tirato addosso. Sai quanti danni ho subito io in questa sessione? Zero. Beh, io sei. Che a voi non colpivano, è giusto, evidentemente. No, a me non ce l'ho neanche provato. È giusto, il giocatore prudente non prende danno. Share. Non è proprio così. Vabbè, dipende dallo scontro. E direi che avevo anche fatto un incantesimo per prendere i danni di sei tu quello che viene puntato perché lo ci sei. Vabbè, cos'altro avrei potuto fare oggi? Siamo stati puntati tutti, a me ha fatto infatti, più danni. Ma tu hai fatto il tuo lavoro, hai preso le botte e gli altri hanno ucciso. E poi gli tecnicamente altri. Io in questi scontri... Tutte e tre tu le hai segati? Sì. Tutte e tre? Sì. Bomba! Sì. Beh, sì, non è quello che gli ha fatto più danni. Beh, sì. Beh, però li ha fatti, Io sto scontro non ho solo perché danno. Ha le armi d'argento automatiche. Io sto scontro ho curato, ho fatto furtivo adesso supporto. 4 di 6. Vabbè, ho fatto qualche danno alla fine, ma va bene, una ventina di danni. Ragazzi, è stato un piacere. Allora, avete visto il 16° episodio di Coloni, finalmente siamo riusciti a fare lo scontro. Ma era solo questo che si voleva far fare dopo questo tempo? Sì, io volevo farli fare sto scontro, perché in realtà sto scontro se eravate tipo in 3 poteva essere un po' tosto. Appunto, però. E allora? Vabbè, hai fatto lo scontro. Vabbè, in 3 sì. Questa era il tipo di sessione che a te piace. E questi sono i cacciatori? Cioè, lui è morto 25 volte questa sessione. Questo dovrebbe essere il tipo di sessione che ti piace. Si combatte e basta, e si ruba agli amici. Esatto, non mi hai fatto rubare gli amici, quindi. Vero, capito? Cioè, lì davanti a tutti. Vai, sta a te, tu mi vuoi dire che te li vuoi impattare in qualche modo? Cioè, almeno devi farne degli Slate Offender per far vedere che prendi. Cosa sta facendo quello là? Non lo so. Ascoltando dei vocali, credo. Va bene, ragazzi. Allora, non so, ride, ascoltando. Questa volta abbiamo fatto una sessione breve e vabbè. La prossima spero che faremo qualcosa magari un pochino più storico, ma qui ci stava. E era il 16° episodio di Coloni. Noi siamo Tycoons & Dragons, vi ringraziamo per averci seguiti, chi ci ha seguito, vi ricordiamo chi? Che potete continuare a farlo sulla pagina Facebook di Tycoons & Dragons. Ci ha seguiti punti chi? Esatto, e su quella di RIPGDR e sul blog di gdr.wordpress.com, oltre che ovviamente sul nostro podcast. E diciamo che ci sentiremo con gli altri per organizzare le prossime sessioni e speriamo di rivederci presto su questi schermi. Per cui, se l'ultima parola la lasciamo a Lars. Dici. Mi servono altri soldi. Nella vita o...? No, no, nel gioco. No. Ah, ok. Va bene, grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ciao! Allora, comunque in generale se volete fissare sempre lunedì a me piace molto. Non so per gli altri. Allora. Lunedì prossimo ci dovrei essere. La trasmissione. Lunedì prossimo è il 5. Sì. Il 5, esatto. Amici del podcast, grazie per anche a voi per averci seguito. E avete avuto anche l'anticipazione sulla prossima sessione. Lunedì, avevo detto. Cioè salvo cose saltuari impreviste, io sempre lunedì potrei. Lunedì 5 dovrebbe andare bene, ok. Beh, io voglio sale. Se fate la terza consecutiva vi devo un'inspiration. Adesso esageriamo. Ok.